Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Pino, ti hanno chiamato la zanzara, ti sei divertito? Ho mandato a fare in culo anche loro ieri sera, sì, giusto. Ti ho perso, com'è andata Pino? Raccontacelo un po', dai. Ma niente, poi dietro Cruciani, io parlavo con Cruciani, c'era uno e non ho capito chi era che sparava cazzate a manetta. Minchia, l'ho distrutto proprio, ma che cazzo vuoi? Mi diceva tu vai in giro con la tua chitarra, ma quale chitarra? Io ho lavorato 35 anni fa, coglione, e tu che sei lì a prendere uno stipendio a fare un cazzo a dire stronzate, e magari lì c'è anche tuo figlio e tuo nipote che lavora, coglione. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Primariamente bisogna dire che questi nuovi casi e questa terribile pandemia naturalmente è ottima per gli ascolti, quindi è una grande notizia. Bellissimo, inizia finalmente il terrore, la morte, l'estate deserte, dai! Ed è qui che allora bisogna cominciare, come dire, a seminare, naturalmente, format su format, paura su paura, naturalmente. Prendere dallo Spallanzani delle persone molto malate, molto infettate, naturalmente, molto malate, e cominciare a spargerle in tutti i locali di notte della città, la mattina quando il lavoratore, naturalmente, alle 6 va lì dopo una notte di lockdown a riaprire la sua serranda, queste persone malate, naturalmente, con le telecamere lo abbracciano, naturalmente, e lì riparte tutto il contagio. Adai. Cari amici, buonasera. Allora, io userò il linguaggio che ha usato Parenzo con Fusaro. Testa di cazzo, fulgido esempio di imbecillità. Buonasera, testa di merda. Buonasera, pronto. Quello non l'ho mai detto. Parenzo, testa di merda. Tu sei l'esempio dell'imbecillità di un paese di merda, dove sette cinghiali stati prelevati ai sensi di legge, stronzi, e che andrebbe fatto in tutta Italia. Cazzo, ce ne 2 milioni in giro per l'Italia di cinghiali. 2 milioni, bisogna eradicarli come i sorci e anche come i cretini come te. Andate a eradicare. E io sono alle 8:30 di sera a 60 anni sul trattore. Ma tu a 60 anni sei un rincoglionito, sì, sei come altro no, che sei un povero ricco, ma certo che te lo dico, senti, io te lo dico che sei un povero rincoglionito. Gira, gioca, vai a giocare col tuo trattore, vai a giocare sì, col trattore, vai a giocare. Parlate di quello che non sapete. Nei giardinetti ti devono sbranare i figli, poi parli, sbranare, cretino, figli, i cinghiali attaccano, lo capisci o no, scemo di guerra. Porto nel giardino, per tutti gli altri rincoglioniti che parlate con voi. Portali nel tuo terrazzo i cinghiali, portali nel tuo terrazzo. Ma sicuro, già fatto, lo rifacciamo. Al quartiere ci siamo rotti, ma quale cinghiali nel terrazzo? Fate la lotta contro la lotta topicida, stronzi. Radical chic de noante, pezzi di merda. Siete matti, cazzo, avete rotto il cazzo. Ma vogliamo dire a Parenzo di smetterla di fare l'ipocrita sui cinghiali, che cazzo in quarantena si sarà fatto mandare a casa 60 piattini gourmet tra manzo, maiale, coniglio, e rompe i coglioni per 6 cinghiali. E allora tutti gli animali che si mangia lui che colpa hanno di morire? Coglione, coglione, coglione. Questa è la zanzara, ragazzi. In collegamento da Roma, David Paenzo per l'ennesima puntata di questa disgraziata trasmissione. Eccoci qua. Buonasera, applausi, cari amici. Piccola precisazione, anche se non serve, a quell'idiota che ha telefonato e lasciato quel messaggio: io per sua conoscenza non mangio né maiali né conigli, perché mi è proibito dalla mia religione, ergo per, di conseguenza non mangio neppure i cinghiali. Detto questo, vattene a fare in culo, caro ascoltatore che hai chiamato e che hai trovato il tempo, anziché studiare, leggerti un libro, uscire con la fidanzata, lasciare un audio messaggio alla segreteria telefonica dell'800 24 00 24, e vi ricordo in chiusura, e poi sì, me ne vado, che oggi ci sono 10.874 nuovi casi, sì, 89 morti, 145.000 i tamponi, in Lombardia 2.000 contagi, in Lombardia 2.000 contagi, in Lombardia 2.000 contagi. Questo è il bollettino del terrore by Parenzo, il bollettino del terrore in Campania, coprifuoco dalle 23, del manutengolo dei vari Campania, coprifuoco dalle 23, Pregliasco, a Milano situazione esplosiva, il coprifuoco non è sufficiente. Da Abano Terme, in collegamento da Abano Terme, mollemente adagiato sul suo lettone, Alberto Gottardo, eccoci qui. Reduce da una davvero soddisfacente sessione di personal training. Sì, ma questo va. Potremmo fare una sfida. Io e come te, mai? Un pomeriggio. E come mai? Cosa è molto soddisfacente. Il personal è maschio o femmina? Il mio è maschio, anzitutto. Si chiama Giorgio. Non mio fare personal. Insinuazioni, no, di bassa lega. No, io ti sto dicendo, il mio soddisfazione. Io ti ho detto che il mio personal è maschio. Giù tutti e due. Meluzzi, Bill Gates e i vaccini col microchip. Iniziamo forte, ragazzi. Iniziamo fortissimo, mentre la comunicazione terroristica sui contagi, sul virus, continua. C'è Meluzzi che parla di Bill Gates e vaccini col microchip. Ragazzi, ancora la maggior parte dei contagi, lo vogliamo dire chiaramente, nonostante la comunicazione terroristica di Parenzo, ancora la maggior parte, diciamolo forte, ancora la maggior parte dei contagiati sono totalmente asintomatici, sì, la e di quelli che vanno a finire, di questi contagiati in terapia intensiva, sono per fortuna ma non è questo il problema. Giù tutti e due. Meluzzi, Bill Gates e vaccini con microchip. Vai. Io credo che sia soltanto un problema di interessi delle Big Pharma. Non credo che sia soltanto il problema che Bill Gates vuole vaccinare tutti e mettere a tutti il microchip sotto pelle. Credo che ci sia un grande disegno planetario che viene coltivato da molto tempo, nel quale anche la presenza di una modesta epidemia è diventata l'occasione per sovvertire un intero mondo. Sovvertire un intero mondo, l'epidemia sfruttata da Bill Gates, dalle potenze mondiali, dalle grandi famiglie, per sovvertire l'intero mondo. Manco fossimo sotto una guerra mondiale. Meluzzi, il nostro filosofo, anzi no, come si dice, il nostro psichiatra favorito, il nostro psichiatra preferito. Ma col cavolo. Che cosa ha fatto recentemente? Che cosa ha messo? Una cosa con l'ingresso di Auschwitz? Che cos'è che ha messo? Sì. Parenzo, che ha cosa messo, ha messo? Come no? Ha postato una foto, sì, dove ha messo l'ingresso del noto portone dell'ingresso, sì, di Auschwitz, dove in genere c'è scritto in tedesco Arbeit, in genere c'è scritto in tedesco Arbeit McFry. Sì. E invece questo cretino, sì, ha taroccato la scritta di Auschwitz, sì, mettendo la scritta andrà tutto bene, come a dire che il Covid è Auschwitz e che ci stanno prendendo in giro, perché l'Arbeit McFry ovviamente era una presa per il culo per le persone che entravano nei campi di sterminio. Allora è un idiota e andrebbe internato tecnicamente proprio, o curato a seconda. Cioè, quello a cui stiamo assistendo è una mostruosità mediatico-giudiziaria propagandistica che non sarebbe giustificata neanche da una guerra mondiale nucleare in corso. I monopattini hanno ucciso più persone del Covid. Adesso questo nessuno, io non lo so, i monopattini, nessuno. Tu lo continui a vellicare. Io lo adoro, posso dirti, lo ma adoro. No, devi dire che è un adoro. Coglione, però lo adoro, come lo adoro Meluzzi. Ma è un coglione. Posso ammettere tranquillamente, adoro Meluzzi. Posso dirlo, lo ma posso confessare. Ma si può dire che dice delle coglionate? Dice delle no? coglionate, alcune volte sì, altre no. Come se come altre, ma come alcune volte sì, altre no. Uno che dice che il vaccino c'ha il microchip, come fai a dire? Il microchip non ci credo io. Di Auschwitz pure, dai. Auschwitz è una cazzata ma che tutto. Ha scritto. I monopattini quando che hanno ucciso più persone. Ma una cosa intelligente, quando l'ha detta l'ultima era volta? Uno che si preoccupava mentre tu dicevi quando? Che era una cazzata. Ma all'inizio di quando? Senti, pazzo. Si è proclamato Pope. Dai, aspetta. Aspetta. Il problema dei cialtroni del governo è molto importante, perché di cialtroni si tratta, di cialtroni che hanno lavorato e che lavorano con la Cina, Basta vedere quei ridicoli monopattici che secondo me hanno ammazzato due persone del Covid già fino a questo momento e nessuno li ha ancora contati. I monopattini hanno ucciso più del Covid. È uno spostato. Sai quanta gente è morta di cancro perché non curata? Questo invece è vero. Questo invece devo dirti ma che non è vero. Niente, c'è un problema delle altre malattie di cui praticamente ci siamo dimenticati. È vero, è così. Non siamo dimenticati di niente. Ci sono tutti mobilizzati. Perché la pandemia è un fenomeno globale che investe ogni stato del mondo. Fai veramente schifo. Fai veramente schifo. Va bene la salute mentale, io sono psichiatra, ma sa quanta gente è morta di cancro perché non è stata curata? Certo, che vuol dire quello? Sa quanta gente è morta di infarto perché non è stata curata? Sa quanta gente è morta di malattie cardiologiche o metaboliche perché non è più stata curata? Ma chi farà il conto di questi morti? Ma da chi non è stata curata? Ma penso Italia, quelli che sono stati curati da questo psichiatra. In Italia, cioè, no, come staranno? Senti come staranno i tuoi pazienti? In Italia non ci sono morti di Covid. Senti il suono. In Italia sono morti 35.000 persone non di Covid, ma in situazioni che erano correlate al Covid. Poi irrompe la professoressa Ornella Mariani. E chi è? Numero uno, la professoressa Ornella Mariani, la mia preferita, lo sai, la professoressa Ornella Mariani. Ma cos'è questo programma? Dire... Arrivano i mostri, che cos'è? Ma scusa, che ma che programma è? Ma manca la donna barbuta e la donna cannone! E il nano che piscia al contrario, ma che roba è? Quello potresti essere tu, infatti. Che roba è? La professoressa. Sì, se mi invitano, Ornella... d'accordo, ma che roba è? Col gettone, naturalmente. Ma sto scherzando. Io anche se. Pisceresti io... al contrario, come il man che pisce a Bruxelles. Per 2000 euro scher- pisceresti al contrario. Per 2000 euro. Per un gettone di presenza, non c'è un po' di dubbio. Cioè, anche quando tu mi inviti a cena, a Cruciani, che non è una cosa che non succede. Ripeto questa cosa. Mia moglie, l'altro giorno, prima che ci fosse il lockdown, mi ha detto: senti, sono tante settimane che non andiamo a cena. Mi porti, dico sì, pagami un gettone. Cioè, il gettone. Gettone di presenza. Io per andare a cena anche con mia moglie, chiedo il gettone di presenza, va bene? Chiaro? Chiaro? Chiedo un gettone di presenza. Dicevi andiamo a cena, David. Sì, dammi il gettone. Il gettone di presenza, dai, se no sto a casa. A cena, quando sali sul taxi pure, quando sali sul taxi. Zaghi sono onorati di avermi e quindi adesso mi dicono 15 euro. Me la lei a me. Dice come lei? No, lei figli, li hai fatti col gettone anche i figli? Gettone di presenza, sempre gettone di presenza. Ornella Mariani, non indosso la mascherina, si chiama Mariani. Questa è da denunzia, potrebbe essere in teoria, senti. Come stai vivendo questo momento? Come stai vivendo? Ma io francamente me ne infischio. Beh, io non porto la mascherina, io esco, io delle loro prescrizioni. Sei una negazionista allora? Io non sono una negazionista, sono una persona che ragiona. Non farò il vaccino. Ma che ti spieghi che trasmissione è questa che invita in serie? È una specie di Zanzara 2 questa roba, cos'è? Senti, cos'è? Così la mascherina è la prova generale per imporre poi i vaccini che per quello che mi riguarda possono risuscitare i loro morti e farglielo, ma non faranno mai un vaccino a me. Dietro c'è Soros. Dietro c'è Soros. Adesso vai matti con queste no, cose. No, ma dietro io ormai cosa vuoi? Tu non riesco neanche più ad arrabbiarmi, cosa vuoi dire? Chi c'è dietro? Ma te lo deve dire Gentiloni chi c'è dietro. Gentiloni. Te lo deve dire questa gente qui che accoglie un criminale internazionale con gli onori dovuti a un capo di Stato e si chiama Soros. Chi c'è dietro? È Soros che è venuto a portare un po' di mazzette, perché questa è gente che sta contenta della mazzetta, capito? Ma che c'entra virus con ciò? Non credo. È una dittatura. Ma certo che è una dittatura, a me fa ridere che la chiamino dittatura sanitaria, è una dittatura. Per questo non ho detto dittatura sanitaria. È come quelli che parlano di piena libertà, la libertà non è piena e non è vuota, non è mezza e non è tanta, la libertà è la libertà, la dittatura è la dittatura. Infine un appello, non mettete la mascherina e non pagate le tasse. Però questo è grave, questa qua è una professoressa che insegna, eccetera. Ma non mettete la mascherina e non pagate le tasse. Questo ma è un fermatela, idolo. Multatela, è un grande freak, però devi ammettere che è un grande freak questo, è un grande freak. Comunque io la mascherina non la metto e invito gli italiani a fare obiezione non solo alla mascherina, ma che facciano obiezione fiscale. Parenzo, ma sti cinghiali metterli sul balcone, no? La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negate, c'è un po' di sano qualunquismo. È ora di finirla con questi pezzi di merda di ristoratori. Sai perché non vogliono chiudere? Perché gli aiuti dello Stato arrivano proporzionali a quello che dichiarano, sti evasori di merda. Da quando abbiamo cominciato a pagare col bancomat, il cinese del cazzo qua sotto casa mia, la sua trattoria di merda, è tutto lì. Ah, mi sono arrivate le tasse, un sacco di tasse, non so come fare. Evasori di merda. Questo è un criminale, vero? Questo qua è un criminale vero, criminale vero, criminale vero. Intanto ragazzi, è incredibile la sfilata di VIP, c'è come una moda, caro Gottardo, so che ti hai molto a cuore questa vicenda. Cioè, c'è i VIP o presunti tali, naturalmente persone pseudo famose o famose sul serio, che prendono il virus, e lo annunciano al paese. E lo annunciano come fosse una grande tragedia. Alcuni di questi poi fanno una doppietta contro l'Inter, per esempio. No, ma a parte questo, a parte Ibrahimovic, Pellegrini oggi, sai quanta febbre ha la Pellegrini, che sembrava che stesse morendo? 36 e mezzo. Beh, c'è chi sta alzata male. Massimo Giannini dentro della stampa Pellegrini è in terapia intensiva, ha scritto un articolo bellissimo. Sta talmente male che scrive gli articoli. È stato in terapia intensiva. Giù tutti e due. Allora, la questione è molto semplice: prendere il virus e annunciarlo al paese. La nuova moda è questa. Non sto parlando soprattutto di personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport. I giornalisti fanno il loro mestiere, comunicano e scrivono, eccetera. È incredibile questa cosa qua. Ultima la De Girolamo: sono positiva al Covid. Che è una questione che può toccare non fare il video, per testimoniare che la cosa è seria. Essere positivi non vuol dire stare male. Levatevelo dalla testa. Lei sta male, te lo racconto nel video. Lei sta male. Ah, sì. Se sta davvero male non fa il video. Ma che vuol dire? Purtroppo, sono dovuta andare a Benevento e mercoledì ho incontrato una persona positiva al Covid, una persona a cui voglio molto bene, con cui ho cenato, e mi ha trasferito la malattia. Ma che ne sai? Io ho fatto un tampone venerdì. Beh, lo sa. Ma non è vero. Sera tardi ho saputo di essere positiva al Covid. Ma non la riesce, non, nessuno riesce a risalire alla catena dei contagi. Ma due date, ne aveva ma fatto che vuol dire? Ma non lo sa nessuno da chi l'hai preso. No, non ma dire si cazzate. Può ritracciare. No, se tu non hai una vita così complessa, lo puoi ritracciare. Potrebbe essere contrario, sai. Potrebbe anche essere contrario. La Pellegrini, oggi sto meglio. Perché lei aveva fatto il primo tampone ed era negativo. Oggi sto meglio. Ma ascoltate quello che dico. Oggi sto meglio. Buongiorno ragazzi, allora questa mattina mi sono svegliata bene. E sti cazzi. Avevo voglia di alzarmi dal letto, di fare, ho fatto un po' di lavori qua a casa. Allora diciamo solo che a febbre niente. Gusto, olfatto non li ho ripresi, però quello mi hanno detto ci vorrà tanto tempo. Ieri ho fatto anche un'ecografia ai polmoni e sono ok. Sono quindi prego. Devo dire che da quel punto di vista era la cosa che mi preoccupava di più e sono un po' più rincuorata. Porro, cara Pellegrini, bisogna dire ai ragazzi che è quasi impossibile morire per Covid. Giusto, porro, all'attacco, sempre all'attacco. Ma non è un buon motivo per prenderlo. Sempre all'attacco, anzi, è meglio dire, sempre alla... le precauzioni. Ma non è una reduce, giustamente dice lui. Non è una reduce di guerra! Sembra essere una reduce di guerra, cazzo, una che viene dal fronte dopo aver combattuto la guerra nel 15-18, porca la gran puttana. Beh, c'è chi sta molto male. Ma c'è, che vuol dire? C'è chi sta uno molto, comunica molto oddio, male. Oddio, sto meglio. Uno deve comunicare, state attenti, ma non usate è, la ma non distanziatevi, ma non eri al fronte. Scaricate l'app Immuni, fate funzionare l'app Immuni. Parenzo è l'unica persona rimasta in Italia che dice di scaricare un flop ad averla assoluto. Scaricata dal primo giorno che lo Stato mi ha chiesto di farlo. Chi ha inventato questa app Immuni e chi ha speso dei soldi andrebbe preso a pedate nel culo. Ma fatta funzionare a pedate meglio, nel culo, questo chiaro? È sicuro. Questo è. Ma non fa fatto funzionare, ormai non può più funzionare, dai, forza. Il vero punto per i giovani è che quando gli prende questa malattia, cara Pellegrini, questo secondo me era il messaggio che dovevamo dare. Ragazzi, se prendete questa malattia e avete tra 0 e 49 anni, il caso che voi moriate è quasi impossibile. Questo bisognerebbe dire, ragazzi. Insomma. Insomma, il primo caso di Covid era uno sportivo. Ma che stava per morire. La Pellegrini può piangere quanto ne pare e la capisco, perché la vita è fatta delle gare, è fatta delle proprie personalità, delle... ma non si può dare un messaggio di reducismo. Ecco, siamo dei reduci, ce l'abbiamo fatta, abbiamo svoltato, abbiamo portato a casa il risultato. No! Se tu c'hai tra i 20 e i 40 anni e non hai nessuna patologia, nel 99% dei casi, lo dicono i numeri, non ti succede assolutamente una mazza. Gli ospedali sono pieni di gente che se la fa sotto dalla paura. Dice Porro. Ma è normale avere paura in ospedale. Porro, silenzio. Ma tu diglielo che dice la stronzata, però. Gli ospedali sono pieni di persone, e lo dicono tutti i medici, che in quel luogo non dovrebbero starci. Ci stanno perché non riescono a essere isolati a casa, ci stanno perché hanno paura, ci stanno perché pretendono l'ospedalizzazione, perché se la fanno sotto. Massimo da Milano, avanti tutto, vai torto, Massimo. Però, se uno non ha assistenza, sta da solo, dimmi, non riesce a respirare. Massimo, dimmi Massimo. Allora basta, tutti i fenomeni, tutti i ristoratori che piangono miseria. In che quando senso, vai scusa? In giro lo scontrino lo vedi. Ma che vuol dire? Chi non fa lo scontrino è un criminale e va punito. Ma è pieno di criminali. Io ma sto non lo Milano, so, ma che cosa c'entra questo? Scusa, non ho capito. Sull'Europa e sto nella zona dei cinesi e lo scontrino lo vedo una volta di morte. Ma che c'entra questo col Covid? Giustamente chi viene chiuso, chi ha dei problemi vuole soldi e li vuole subito questi soldi. E quando ci sarà la chiusura adesso dalle 23, sia in Campania che in Lombardia, ci sarà un sacco di gente che perderà i soldi. Perché ma chiusura guarda, alle 23 significa sostanzialmente che cosa, nessuno andrà che al ristorante. La gente paga col banco, ma il allora... maledetto cinese sotto casa mia, da quando pago col banco, ma dici che piange sangue, perché mi dice mi arrivano tante tasse, adesso gli arrivano ma tante che tasse, perché mica... la gente gli paga ma col mica, banco. Ma mica i ristoratori sono degli evasori fiscali, ormai sono tutti controllati, che cazzo dici, una volta forse era così, che c'era tutto tanto nero, adesso non c'è più il nero di prima, coglione. Come no, è tutto a posto. Ma non ho detto che è tutto a posto, ma non è che puoi dipingere un'intera categoria di ristoratori come dei criminali, c'è gente che si fa un culo così. Adesso, ma tu che cosa fai? Ma perché tu che cosa fai, scusa di mestiere, cosa fai? Ma io faccio il tecnico. Specializzato. Ma tu non fai un cazzo, secondo me, non fai un cazzo. Magari, questo capito? È il punto. Fai quello che sarà garantito, non deve spaccarsi la schiena ogni giorno. Ah, no, sono un progetto, hai capito? Mi ma che c'entra? Ma perché devi attaccare i ristoratori dicendo che sono dei evasori fiscali? Coglioni, guarda. Beh, un po'. Vabbè, allora non c'è andare al ristorante e non rompere cazzo, ma che vuoi? Cioè, non riesco a capire. No, non smettere di fare sta cosa. Alex qua, da Brescia, muto, Alex da Brescia, giù, Alex, dimmi. Eccomi, sì, però questo è un coglione, perché i ristoratori hanno sicuro anche dei dipendenti. Tra l'altro, e vabbè, io sono uno di quelli, per esempio. Ho un'altra cosa da dire, che mentre si parla solo di Covid e cinghiali, sì, in realtà stanno succedendo anche altre cose. Io sono incazzato nero con un ministro che si chiama Speranza, che due giorni fa ha firmato un decreto che, sentite bene, anche se già qualcosa è detto, ma pochissimo, ha bloccato la produzione e il commercio di oli derivati dalla CBD, dalla cannabis sativa in Italia, ottenendo completamente, castrando in pieno un settore che dà da mangiare. Sì, la cosa è da approfondire, fosse vera, è da approfondire perché fosse è un limbo. Fosse vera, Alex, che è stato bloccato. Sì, se è stato bloccato il commercio dei CBD, quello che è, dei derivati dalla cannabis, è uno scandalo, non una vergogna, so, che farà perdere altri quattrini. Altri i quattrini. Coltivatori stanno raccogliendo adesso, i distributori non comprano perché non sanno se potranno e questo, rivendere. Se è così, è una vergogna. Beh, è una vergogna questo assoluta. Certo. Fermi così, tutti, fermi tutti. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. La Zanzara. Vai tu, se vuoi parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 00240024 oppure se vuoi mandare i miei messaggi coppa WhatsApp 393-7171-701. Parenzo, persino quel pelano mascellone s'affidò a intellettuali e filosofi per divulgare il fascismo, qui invece il primo ministro si è affidato a Fedez per divulgare. Mamma mia, che paese! Ma voi ve lo immaginate, che ne so, il paese più sfigato nell'Unione Europea o nel mondo, tipo un buco di culo che si affida a un rapper per divulgare le nozioni scientifiche e tutto quanto? Ma ve lo immaginate voi, che paese! Purtroppo mi tocca dare ragione a Gottardo, Che paese, un paese che si affida a Fedez. Il primo ministro chiama Fedez, mamma mia, invece ti chiama divulgatori scientifici, gente che ci capisce, no, Fedez. E vabbè, comunque bisogna dare ragione a Gottardo, che non sa dove finisce lui e dove inizia il letto. Gottardo, stai talmente mollo su quel letto che sei diventato una figura mitologica, metà uomo, metà letto. Senti qualche virologo che dice di essere virologo lui e non i soliti che senti in giro. Per caso, cioè, Gottardo, tu conosci uno che si chiama Palù? Conosci bene, certo, uno che si chiama Palù? Già, no? già presidente della Società Internazionale di Virologia, certo, il esatto, virologo più noto al mondo, uno che non si è mai occupato di polli, a differenza della capua, per esempio. Sì, Palù è stato il cap. No, perché la capua, quando l'ho intervistata io all'ANSA, la lavorava per l'istituto zooprofilattico, si occupava dell'influenza dei polli. È importante, cazzo, si trasmette, sì, dagli però, animali l'influenza. Scusami, non si occupava nemmeno di zanzare, no, come ha detto, no, lui stesso. Non si occupava nemmeno di zanzare. Il signor Palù. Sentiamo il signor Palù, molto cliccato sul web dopo un intervento che ha fatto non so dove, dalle tue parti, caro Gottardo. TV7 Triveneta, credo. Andiamo con Palù, che dà bastonate a tutti e poi anche a Parenzo indirettamente contro il terrore. Dimmi. È intervenuto nella televisione dove ha esordito David Parenzo di fronte alle telecamere. Incredibile. Sì, però posso dire una cosa? Sì. Allora, il lockdown dalle 23 alle 5 di mattina è una puttanata inenarrabile. Cioè, non serve a una beneamata mazza, serve solo a rompere i coglioni ai ristoratori per chiudere prima. Io vado alle 11, sono sempre a casa. Per provare a salvare i ristoratori, ovvio, sì, per quello l'hanno fatto. Il Covid non è l'uomo lupo e non è neanche il conte Dracula, no, va bene? Dalle 23 alle 5 non succede un cazzo. Ma è un modo per dire state attenti e state a casa, è chiaro. Ma perché devi rompere il cazzo? Ma è uguale, perché state attenti. Ma scusami, siccome David, ci sono persone come voi che invece dicono che va tutto bene, ma non diciamo assolutamente che va tutto bene. Allora, per rispondere a gente come voi bisogna mettere delle regole. Ma scusami, dire che bisogna stare tutti chiusi dalle 23 alle 5 significa mettere nei guai una marea di gente. Innanzitutto rompere i coglioni. Meno che chiudere tutto, però. Aspetta. È un compromesso. Il ristorante lavora dalle 8, no, dalle 7 il ristorante di sera lavora alla metà, alle 23. Perché la gente deve andare via alle 10:15, alle 10 per andare a casa. Alle 23. Ho capito, chi è che va a cena alle 23? No, alle 23. Un minimo di fatturato. Ma non devi tenere conto delle 23, devi tenere conto delle 23 che devi stare a casa rinchiuso. Ah, sì? Dunque, in realtà salvi un minimo di fatturato, E chi paga il resto? Il resto del fatturato, chi lo paga? Stato. Chi caccia i soldi? Grants dello Stato, grants che arrivano dal recovery fund. Ciao Gore, ciao Gore. Palù. Quei virologi che sono stati interpellati, il 90%, o erano infettivologi, erano igienisti o erano entomologi esperti di zanzare o di malaria, che non avevano mai visto pubblicato un lavoro scientifico su un virus. E giù bastonate, non moriremo tutti come con la spagnola. Senti Palù. Non moriremo tutti come qualcuno evocava, non è la spagnola che ha fatto 50 o 100 milioni di morti nel 18, ma noi avevamo né la penicillina, né il cortisone, né l'eparina, né le rianimazioni, allora né gli antibiotici. Quello che è virale non è il virus, è la paura, dice Palù. La paura è virale, il raziocinio e il buonsenso non è virale, in quanto non contagia, è virtù di pochi, anche perché è difficile quando siamo sommersi da un'informazione martellante. Due volte al giorno, alle 5 della tarde, prima c'erano anche i dati di ogni mattina. La mortalità è bassa, ragazzi, questo qua andrebbe diffuso urbi e torbi, questa roba qua. Ma bene, viva, ma quindi cosa bisogna fare? È viva, questo pure bisognerebbe comunicare anche questo, non il terrore ogni giorno. La situazione a Milano è drammatica. Ma quale situazione drammatica? Quindi cosa farebbe? Drammatica è quando ci sono i morti per le strade. Dai, su, drammatica. Voglio dire, la gente ferma per strada, mi dice ma moriremo tutti. No, è vero. Fortunatamente abbiamo poche persone in rianimazione, quindi lo 0,5% di tutti i casi positivi, che eccolo, è 30 volte meno di quello che era all'esordio. La mortalità è relativamente bassa, il 90% della mortalità era negli ottantenni e su soggetti che avevano altre patologie. Oh, allora, diciamo la verità. Gottardiano, lo diceva a febbraio. Fermo. Basta che dici questo. Basta che ricordi questo. Non è così. Non è così. Allora lui contraddice Palù. Va benissimo. Posso dirti una cosa? Questo è il messaggio diverso che viene dato rispetto, per esempio, a Pregliasco. Io l'adoro Pregliasco. L'ho incontrato pure l'altro giorno. Ci salutiamo tranquillamente. Ci abbracciamo. Però insomma, quando Pregliasco dice la situazione a Milano, la situazione a Milano è drammatica. La parola drammatica, porca la gran puttana, a casa mia è significa che ci persone, sono però. I morti. No, terrorizzi le persone in testa. Ma scusami, non ci sono i morti per strada. Più persone si contagiano, più i nostri vecchi sono in pericolo. Però come fai a non capirlo? Massimiliano, cioè, più si espande il contagio, più anche gli anziani entrano Palù, in zona pericolo. Esatto. Ma lo sanno tutti questo ormai, evitarlo. Non rompete. Ma perché devi dire? Ma la paura è anche ma virale. Allora, anche alle 23 non va chiuso. Cioè, cosa faresti? No, è inutile, tu? Ma l'ha Niente. Detto lo stesso Fontana ieri sera, ha detto che è una cosa di bandiera questa roba qua. Simbolica, non serve a un cazzo. E l'ha fatto, Massimiliano però. Da Cesena, non serve a un cazzo, è un modo Ciao, per dire Brooks. Tanto ci arriveremo dopo a chiudere di più. Dai, su, Massimiliano allora. Da Cesena. Usano questo tipo di linguaggio proprio per creare terrorismo. Io ti porto un esempio, a parte apro una parentesi, tutto quando sento parlare Parenzo mi viene da spararmi in bocca. Prego, io apro una parentesi, a te ti sembra strano che una usi uno strapono con il proprio fidanzato, poi sì, magari sì, per te è normale. Che, la tua fidanzata usa lo strapono? No, ma sono uno molto libero, ho lavorato in quei posti là, quindi io sono aperto. Quali posti? Ho lavorato in parecchi privé, in locali in passato, da giovane facevo la sicurezza, quindi ma questa era solo una parentesi. Chiamo in verità per quello che sta succedendo nelle ultime giorni, che accompagno i bambini a scuola. Avevo mandato anche un messaggio ad ogni angolo di strada, laddove fosse possibile, parcheggi di supermercati. Allora, vedi sti cazzo di gazebo, questa allora, gente quello, vestita quello, tipo meno, da lì. Meno male però che ci sono i posti dove controllano. Però vedi Crux, il vero obiettivo di questo governo infame è quello di cambiare non noi, ma le nuove generazioni. Mio figlio, prima di lavarsi la faccia la mattina, di mettersi la cartella, si tira su dal letto che è già la mascherina. Stanno creando un terrorismo a questi bambini, ma perché vogliono dei robottini, cazzo. Ma chi li vuole? Chi li vuole, dici tu? Ma cambiano le nuove generazioni perché non possono cambiare più noi, vogliono tu dei robottini, Bill della Gates, gente che non si abbraccia. La separazione, il robottismo, io sono un semplice operaio, non lo so cosa ci sia dietro. Non dico che il Covid non ci sia, io non lo so. Però stanno creando un terrorismo. Ma un terrorismo, io lo vedo sui miei figli. Carlo da Como, fuori, abbraccia tutti tranquillamente. Carlo da Como, dimmi Carlo, avanti tutta. Cruciani, buonasera. Non me ne frega terrorista. Niente, dai, avanti. Parenzo, buonasera, e quell'altro sdraiato che non mi ricordo come cazzo si chiama. Mollemente adagiato. Come si chiama? Vai avanti, su, vai. Dopo allora, il non so training. Se sapete, la vergogna della Lombardia, che da due giorni, dopo il 18, non si può comprare l'alcolici al supermercato. Sì, ma però lo sappiamo, c'è la gente, Carlo, lo sappiamo, che due si giorni. Scanna. Eh sì, lo sappiamo, ok, ma è una vergogna. A me lo dici. La gente si scanna per comprare la pasta, E quel coglione di Parenzo fa terrorismo Ma vaglielo a dire al governatore della Lombardia. No, Carlo, Somaro. Stai zitto, se sto parlando io, poi dopo parli tu. No, Carlo, stai zitto, qui comando io innanzitutto. Okay. Dunque, tu non dici un cazzo. Stai zitto quando dico io. Ma vai a dirlo al governatore della Lombardia, non mi rompere i coglioni a me. Che cosa vuoi? Dimmi, che cosa vuoi ancora? Dimmi, cosa vuoi? Che sta zitto. Fa terrorismo psicologico verso il popolo italiano. Veramente, il provvedimento delle 18 l'ha preso il signor Fontana, non è che l'ha preso Parenzo. Sì, va bene, Fontana, ma quello è solo la punta dell'iceberg, come dire. In autonomia ha deciso di mettere quella cosa là. In Lazio non c'è, ad esempio. Mi ha rotto i coglioni, Silvano da Parma. L'ha deciso il governatore Fontana, poi magari Parenzo è d'accordo. In autonomia. Non lo so. Silvano da Parma. Ah, non lo so, se reputa lui che è esplosiva la situazione, avrà fatto bene. Voglio esprimere solidarietà, scusami Silvano, adesso torno, nei confronti di quel reporter del New Yorker e della CNN, credo, che è stato licenziato perché dopo una un commentatore, quello che è, perché dopo una diretta Zoom si è dimenticato di essere ancora in diretta. Pazzesco. E si è fatto una sega, si è masturbato, dai. Ma ho capito, terribile per lui, uno deve dire, dato che purtroppo oggi ci costringono, ma da ritirarsi completamente, ma come, da bisogno ritirarsi? C'è un signore di 5 di mettersi lì dopo una riunione, ho capito, non ho capito, ma che vuol dire? Lui non pensava mica di essere in diretta, non l'ha fatto mica apposta, certo, per esibizionismo. Poveretto, tu l'avresti licenziato? Ma tu l'avresti licenziato? No. In diretta Zoom, quello si è fatto una sega perché magari andava di farsi, però, una sega. Ma uno si potrà fare una sega o no? No, dopo una diretta, no, non dopo si una può fare una Zoom, sega. Una quell'età lì si legge un libro. Ma perché? Non lo so perché. Oppure torna a casa, saluta la moglie. Non lo so, però mettersi lì a quell'età, quanti anni avevo visto? Ma non lo so, avrà avuto una cinquantina d'anni. La tua età, 55 anni, mettiti il cuore in pace, leggiti un libro, non rompere i coglioni, no? Ma non ho capito, ma spiegami un attimo, ma perché uno dopo una diretta Zoom in cui magari si è rotti i coglioni, magari aveva visto una figa, gli sarà venuta in mente qualche cosa, chiusa la diretta Zoom, si è messo a fare, si è messo e si è segato. Il problema è che non l'ha chiusa. Jeffrey Tobin, non so come, scrittore, analista, anni. Si è masturbato in diretta con giornalisti. Vabbè, assumiamo la Radio 24. Ma magari, ma è la mia solidarietà, ma venga riassunto subito questo qua. Ma che cosa ha fatto di strano? Ha chiuso la videocamera, si è tirato fuori il pisello e niente. Ma ho capito, ma è sfortunato, è stato sfortunato. Ma non è normale che uno a 55 anni, ma perché deve essere sospeso? A mezzogiorno, dopo una riunione, a mezzogiorno, con tutte le cose che uno di giorno ha da, io ho da fare, io durante la giornata ho da fare mille cose. Ma come ti viene in mente? Il tempo per una sega non ce l'hai. Ma come ti viene? Ma ho da fare 2000 cose, portare i bambini, riprenderlo, cioè, tu non pensi mai a farti una sega e comprare le mascherine e ma durante il giorno, ma c'ho da fare mille cose. Credevo di non essere visibile, appuntamenti, riunioni, pensavo che nessuno potesse vedermi, pensavo di aver silenziato il video. Questo ha detto, sospeso da un giornale. Mi scrive questo gioielliere di Milano, che diremo il nome, si chiama De Amelis. Ma perché devi fare pubblicità a un gioielliere di Milano? Io ho 50 anni e mi faccio due cose al giorno. Dice, certo, si fa due. Questo qua purtroppo si chiama Roberto. Questo, ma Roberto di Milano, abita vicino a via Farini. Ma chi se ne frega, insomma, dove abita questo qua? Allora, sti cazzi, ma perché devi, che devi avere un gioiello da lui? Ti deve regalare un gioiello? Non vuole che si dica dove sta. Ecco, adesso è va bene, benissimo. Però abita vicino a via. Però ho capito, questo si fa due sei al giorno in quella zona là. Questo qua, sì. Poveraccio, ha chiuso la cosa, pensava di aver chiuso e ha cominciato a farsi una sega. Magari stava pensando a una che si era scopato il giorno prima, una che si vuole scopare. Roberto De Amelis. Non c'è nulla di più normale, nulla di più umano di quello che ha fatto. E l'umanità andrebbe premiata, invece, ma oddio, si è masturbato, sospeso. Questa è quella merda di America moralista maledetta, perché in Italia questo qua non sarebbe successo nulla, diciamo la verità. Se sorprendono Parenzo che dopo la diretta della Zanzara, non pensando di non essere... Ma non mi viene in mente. Se, ragazzi, può succedere. Può succedere. Fermi tutti, un abbraccio a questo signore. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. La Zanzara. Mamma mia, io non ne posso più, non ne posso più. Un tal Paolo Berizzi che dice sostanzialmente che le palestre sono un luogo in cui prolifera il fascismo, un luogo identitario di una cultura fascista, ed è per questo che le destre si sono mobilitate contro l'eventuale chiusura delle palestre. Mamma mia, ma io veramente non ne posso più, siamo alla follia pura, c'è una puttanata di queste dimensioni. Io non l'avevo mai sentita. Assurdo, ridicolo. Se volete vedere partire la rivolta, mettete il limite alle 18 per l'acquisto di alcolici in Veneto. E lì sì che parte la rivolta, quella vera. Dove sei, Veneti? Dove sei, Veneti? Dove sei, Veneti? ragazzi, incredibile a Roma, incredibile a Roma. Che è successo? Fiori e candele, quella cosa sulle palestre però è vera, c'è un giornalista di Repubblica, Tal Benizzi, il quale ha scritto, il quale sì, può darsi, il quale non c'è dubbio, il quale ha scritto però che la difesa della contro la chiusura delle palestre fatta dal centrodestra, che non so manco se sia vero o no, si capisce perché le palestre sono, come dire, una specie di luogo. Beh, a Roma alcune palestre sono state erano in mano David, a Forza Novisti. Ma si può dire che è una cazzata questa alcune roba qua? Palestre erano in mano a Forza Novisti. Ma si può dire che è una puttanata questa? Ma non si può dire che è una puttanata che le palestre siano di centrodestra e dunque vengono difese da quelli del centrodestra? Le palestre non sono di centrodestra. Ecco, le palestre non sono di centrodestra. Ma è vero che a Roma è vero che a Roma ci sono molte palestre. David, a parte te, l'unica ideologia per cui uno va in palestra è la gnocca, quindi non è né di destra né di sinistra. Esatto. Dai, avanti. Allora, fiori e candele per i cinghiali uccisi a Roma, voi vi rendete conto? C'è nel luogo in cui sono stati narcotizzati barra uccisi dopo, ti giuro, narcotizzati barra uccisi quei 6-7 cinghiali dell'altro giorno, venerdì notte. Ci sono fiori e candele, ragazzi. Fiori e candele per i cinghiali. Per i cinghiali. Mamma, adesso faccio come Giordano. Per i cinghiali. Lo facevo prima io, in realtà. Per i cinghiali. Ditemi voi, Donato, Roccabella. I cinghiali, dimmelo tu, i cinghiali, com'è possibile? Fiori e candele per i cinghiali! Ma non ce la posso fare! Ma perché vi scandalizzate? La gente porta fiori e candele per i cinghiali! Ma io vado ai matti, spacco tutto, fiori e candele per i cinghiali morti! Porca puttana! Ma tu ti rendi, ma tu come ti viene in mente di alzarti la mattina e di andare in un posto a portare fiori e candele a prima porta, però che non sono ti i due scandalizzi cimiteri. Quando non ci sono quelli che vendono la loro Milano. Urina online, non ti scandalizzi, no, guarda, quando ci sono dirti, non usi lo stesso dirti, livello no, di indignazione. Posso dirti che è assolutamente normale vendere l'urina online, invece non è normale, esatto, è più normale vendere l'urina online e masturbarsi dopo una riunione su Zoom come ha fatto quel poveraccio, eccetera, piuttosto che portare un fiore o una candela nel luogo dove sono stati uccisi 6 cinghiali. Sì, trucidati 6 cinghiali. Diciamo che nel mio mondo c'è chi non fa né una cosa né l'altra. Né una cosa. Il tuo è un mondo fatto di banalità, di cazzate, di salottini. Salottini di paese. Vi chiedo scusa se ne porto le candele per i cinghiali, né tantomeno vi chiedo scusa dopo una riunione su Zoom faccio queste cose online. Vi chiedo posso scusa. Dirti una cosa però un che però un po' di ventrella, un po' di ventrella, un etto di ventrella. Poi parleremo della ventrella, però posso dirti che il succedaneo, adesso uso una parola, il succedaneo della pippa su Zoom che ha fatto quel poveraccio sospeso, in realtà la pippa sul lavoro, sul luogo di lavoro, ormai moltissime persone lavorano con Zoom, lavorano online, e dunque quello si è fatto una sega pensando di essere in realtà non essere ripreso. E la stessa cosa è quando uno qua va in bagno, magari anche al sole 24 ore, magari l'ex Price, perché sai che hanno sbaraccato tutto qua, sì, alla Price, per colpa tua, la Price Waterhouse and Cooper, per colpa tua se ne sono andati, ha fatto costruire un nuovo stabile, sono andati via, per colpa mia, io ho conosciuto i dirigenti e mi hanno detto che sono andati via anche per colpa tua, per la bad reputation tua. La realtà è che chi è che non si è mai fatto una sega sul posto di lavoro? Ma ragazzi, non diciamo cazzate. Io posso ammettere una cosa, alzo le mani. Ma non c'è da ammettere. In tanti anni che sono qui, qualche sega me la sono fatta. Posso dirtelo, lo posso dire tranquillamente. Mancava questo colpo di grazia all'azienda. No, ma lo posso dire. Io qui sul lettone radiofonico ho fatto ben di peggio. A chi è che non è capitato di farci una sega? Uno ti scatta un attimo il raptus, no, vai lì nei bagni della Price e ti fai un bel segone. Ma qual è il punto? Che poi c'è la fuga delle aziende. Lamentati perché Price. Ma qual è il problema? Se ne sono andati per colpa anche tua. Ma no, ma quale, ragazzi, ma veramente vogliamo essere così ipocriti? Così ipocriti da non ammettere che sul posto di lavoro uno ogni tanto va in bagno e si sega? È la stessa cosa di ma quello che è successo c'è sul tempo. Zoom. Ma perché mai uno al lavoro deve fare? Posso ma dirti, uno te lo posso confessare giornata. In tanti anni qui al Sole 24 Hours, alla Radio 24, è successo anche a me. Sono andato di là, preso da un raptus, da un pensiero, da una cosa, e mi sono fatto un secondo. Posso dirti tranquillamente? Sì, lo posso confessare tranquillamente dall'ufficio di Barisoni, esatto, peraltro, a pochi passi il bagno, magari dopo gli ho anche stretto la mano successivamente. Mamma mia Esther dalla provincia di Milano. Mamma mia. E che ti devo dire? Ma tutto questo è compatibile con questo giornale, con questa radio? È compatibile tutto questo? Ma io non lo so. Nel baghetto vicino all'ufficio di Paesoni. Non ce n'è uno, effettivamente. Però non mi ricordo se là me lo sono fatto. Esther dalla provincia. Ma non è compatibile. Non è compatibile. Perché non sei andato a farlo su nell'ufficio del direttore? Allora, nel bagno del direttore. A proposito, perché? Prima perché? Di Esther dalla provincia di Milano, prima di essere dalla provincia di Milano, voglio fare gli applausi al sindaco della Zanzara. Anticipiamo gli applausi al sindaco della Zanzara, Brugnaro, sindaco di Venezia. Ottimo, a proposito, Brugnaro, sindaco di Venezia, fai sentire Brugnaro, che ancora ride, nostro grande sindaco, grande difensore della Zanzara, anche per queste cose qui, per questa sincerità e per questa libertà. Sì, è vero, mi sono fatto una sega qualche volta, forse accanto all'ufficio di Barisone. Perché Brugnaro non ci difende più. Brugnaro, fanno sentire Brugnaro. Tra l'altro sono anche un difensore della Zanzara, per cui io no. Io sono scherzo. No, appositamente. Ti ringrazio. Sono un grande difensore di quel programma. Questa si chiama. In Confindustria si sapeva, no, non è il captazio veneno. Esatto. Perché bravo. Sai quanto mi avete picchiato. Però credo che siate un esempio di libertà, questo lo dico, anche se sai che su certi fronti non siamo propriamente d'accordo. Senza alcuna piaggeria. Va bene, e poi dicono che sono io che accendo le micce. Allora, che ascolto, no, sai perché? Allora, perché io ascolto la Zanzara e sono peggiorato. Cioè, bonomi, capito? Adesso è colpa mia, capito? Sì. Tutto questo avveniva nelle stanze segrete di Confindustria. No, veramente è una cosa pubblica, insomma, la sua stanza segreta. Comunque, caro Brugnaro, ti abbraccio fortissimo. Io non so se ti ho trattato male qualche volta, evidentemente hai detto una cosa che non mi piaceva, non lo so. Comunque, ufficialmente da oggi non ha bisogno, perché è stato rieletto la seconda volta. Brugnaro è il sindaco della Zanzara. Sì, ancora un applauso al signor Brugnaro, ancora un applauso. Si è eletto per sempre doge di Venezia. Non gli stai facendo un posso dirti no, come no, come no, come no. Quando si candiderà magari il governatore del Veneto al posto di Zaia, voglio vedere se questa radio no, non lo appoggerà il signor Brugnaro. Dai, su, dai. Vabbè, io per primo. Fra poco io per primo, Walter Brugnaro Caporale, fra poco Walter Caporale, fra pochissimo ci collegheremo con Walter Caporale, che è un esponente dei Verdi estremista, molto estremista, che su cui sicuramente ci sarà da discutere, con cui faremo una grande battaglia. Ester, provincia di Milano, intanto. Ester, dimmi, dimmi. Senta, io volevo solo dire, eccola, ma grazie, no, guardi, con i messaggi che che dice lei, no? Sì, quali messaggi? Guardi, che mi sono fatto una sega. Chiuderanno sempre mi sono fatto una più sega. Ristoranti, no, veramente sempre parlavo di sega, più signora. Bar. Perché la prudenza, moriranno sempre più volontari. Ma io parlavo medici, di sedie, parlavo di... E così lei e tutta la sua banda, sì, che state di quei messaggi. Quali messaggi? Aver vergogna. Ma quali per messaggi? Forza, senta, per forza. Ma io parlavo di seghe in bagno, no, adesso. Io di quelle cose lì non me ne frega brava, niente. Esatto, io penso solo lei ormai che è morta da quel punto di vista. Ma dato che lei me l'ha detto a me, come fa a sopportarlo? No, io non lo so. Volevo dirle, no, mi lasci finire. Volevo dirle pure che il buon senso, lei reclama per il commercio che si ferma e tutto. Ma se non abbiamo un pochino di riguardo, ma te che ti frega che stai barricata, guardi, dentro casa, sei barricata dentro casa, che cazzo te ne frega a te? Ma io non sono barricata. Non spendi un euro per i ristoranti, non spendi un euro. Ma mi lasci parlare anche a me, è solo lei che urla. È talmente gentile sta signora, grazie. Di riguardo, le cose magari vanno a posto prima, perché tutta l'Europa che c'è per aria. Mi viene voglia da ridere quelli che telefono qui e così e così. Ma è tutta l'Europa per aria. Ma che ha avuto un sacco di prudenza, di guardi che si sta rialzando. La Cina, lei deve è una scherzare, dittatura la Cina, no, finisci lei da deve Ester scherzare. Parla di cose, parla di cose. Non si può scherzare, ma quando non si può scherzare deve fare la persona seria, perché ma io guardi ti, che Ester, lei ma io ti mando noi, a fare in culo, no, aspetti, lei dice, ma è una disgraziata, dai, su, lei dice che noi che siamo superiori alla bestia, non è vero? A chi perché alla destra? Che lei ha detto dice sempre che le bestie noi siamo superiori alla bestia, per un mangiare Ester, possiamo far Ester, tutto. Ma lei ha paura di morire? Guardi, ha paura di morire? Quando morirei non vuole portarti il lumino e così come fanno per il cinghiale, capito? Perché al modo che ecco, vecchia maledetta, vecchia maledetta, è uguale a quel religioso là, perché i religiosi hanno un po' più di sensibilità e un po' più di modestia. Ma tu sei pazza, sei pazza totale. Guarda, lei da via del suo, io non so come fa la sua radio a non metterlo un po' in riga, sarebbe anche ora, va mea bene, colpa mia grandissima, come vai a cagare, vai Ester, via, vai. Caporale, ci sei? Ci sono, Cruciani. Eccoci qui, allora che è successo lì con i cinghiali? Beh, è successo che ci sono dei vigliacchi criminali assassini bastardi che sono Laraggi e Zingaretti, che si rimpallano la responsabilità adesso assassini criminali bastardi, e lo dico sperando che mi querelino. Mi sembra un po' eccessivo questo. No, ma che hanno ammazzato? Hanno ammazzato dei cinghiali, cazzo, dei cinghiali sono buoni per stare, sono buoni per essere mangiati, ma i cinghiali. Cosa dici, Cruciani? Non dire buffonate, erano sei cuccioli di cinghiale, perché bambini del parco. Ma quale amici per tre secondi, amici? Ma finiamola questa. Erano dei cuccioli, caro lei, con la mamma li ha difesi, erano lì, giocavano, ci sono i video. Hanno violato la legge quelli che hanno ammazzato? Allora, ti pare normale che a 200 metri dal Vaticano, nel cuore di Roma, tu ammazzi sette esseri viventi che stanno lì? No, non sono sette esseri viventi, sono sette cinghiali fuori controllo, Non erano fuori controllo perché erano in un parco cittadino. Ma perché non vai a protestare quando i cinghiali ammazzano, gli esseri umani, quando investono le persone? Perché non vai tu a protestare con i cacciatori che importano i cinghiali dall'est Europa perché si dipinano le mazzette con i politici delle province e quindi riempiono l'Italia di cinghiali per dire che siamo pieni e per ammazzarli? Cioè, non ho capito. Tu pensi che i cacciatori siano degli assassini criminali? Non ho capito. Certo, sono assassini loro e sono cacciatori, sono corrotti, si dividono le mazzette per portare i cacciatori dall'est Europa. Questo no, tra l'altro, scusami un attimo, oggi è morto, oggi tra l'altro è morto pure un cacciatore, chi se ne frega, se ne è voluta, cazzi suoi, scusa. Cade per terra, partono alcuni colpi e resta fulminato. Sì. Se lui non stava a caccia, non stava ammazzando esseri viventi, non sarebbe morto. Se stava a casa a scopar con la moglie, non sarebbe morto. Se stava a casa a giocare a carte, non sarebbe morto. Ma sei un criminale tu, sei un criminale tu. Perché noi animalisti italiani non auguriamo la morte a nessuno, ma siamo felici quando un assassino muore. E quando muore un pedofilo, stappa una bottiglia di champagne. Stappa tranquillamente, è morto. Ma che c'entra il pedofilo col cacciatore? Vergognati tu, non fare il buffone. Quelli che hanno ammazzato i cinghiali dunque sono assassini peggio dei pedofili. Allora, se muore un razzista che ammazza Willy, se morissero quei razzisti che hanno ammazzato Willy, quel ragazzo di colore qua di Roma, ma tu sei un pazzo criminale. Che non hai il coraggio. Allora tu stai paragonando quelli che hanno ammazzato il cinghiale dei pedofili, quelli che hanno ammazzato il cinghiale. No, ho detto che io festeggio la morte di un pedofilo, di un nazista, di un assassino e di un cacciatore, di chi ammazza. Ma tu sei pazzo totale. Dunque quelli che hanno ammazzato il cinghiale l'altro giorno della polizia provinciale sono dei pedofili, degli assassini. Veterinaria è una grande bastarda, vigliacca che deve pagare. No, dai, insomma, questo qua ti assumi la responsabilità di quello che dici. Quelli della polizia provinciale, che hanno sparato potevano fermarsi lì la Brambilla a noi avevamo detto che potevamo prenderci i cinghiali. Ma chi se ne frega? Ma non è che sono di vostra proprietà i cinghiali? Non sono di vostra proprietà, hanno seguito la legge e sono stati ammazzati. Li potevano far adottare, effettivamente avrebbero potuto. Ma che c'è? Ma che decide? Non sono di vostra proprietà i cinghiali, caporale. Non so, capito, ma se uno se li prende, viva, no? Che problema c'è? Li potevamo prendere, quei cinghiali erano lì, felici, giocavano con i Scusami, Besana, aspetta, c'è un cacciatore. C'è un cacciatore che mi ha chiamato. Fermo un attimo, hai sentito come ti ha definito questo qua? Sì. Sì, ho sentito, effettivamente la mamma delle sciocche è sempre incinta, per cui non mi stupisco. Besana è un cacciatore che va a pernici, lepri, cosa vai tu? Cosa uccidi? Sì, vado a Stanziale, a Selvaggina Stanziale, non vado a cinghiale. Sei un assassino, lo sai che hai le mani insanguinate? Lo sai che hai le mani insanguinate di essere viventi ammazzati? Certo. Non devi vergognare di quello che fai, perché sei un assassino. No, non mi vergogno perché lo faccio. Vergognati. Non mi vergogno perché lo faccio, perché... E pagherai per quello che fai, perché il karma esiste. Dunque, se crepa... Se crepa, che cosa? Taglierò che cosa? Per quello che uccidi, per le tue mani insanguinate, perché il karma esiste, ad ogni azione corrisponde una reazione. E dunque tu gli stai augurando la morte? No, non ti auguro la morte, ma sarò felice se tu morirai andando a caccia. Non ti auguro la morte, non lo farò mai. Una roba incredibile. No, se tu vai a caccia e credi, io sono felice perché tu credi e salviamo centinaia di animali, perché tu sei un assassino vigliacco. Sei un vigliacco, certo, come no? Con me. Io vado a caccia perché me lo consente la legge. No, perché me lo consente. Che vuol dire frustrato? Anche la schiavitù era consentita dalla legge, anche la pena di morte. Ma che vuol dire frustrato? Che ne sai che è frustrato? La tortura era consentita dalla legge. Ma non dire stronzate, dai, no, su, caporale. Dici questo. Delle stronzate, il cinghiale è buono, soprattutto cucinato, è stupendo. I cinghiali. Non possiamo portarlo in un parco. Non ma no, ma il parco, i cinghiali devono essere o chiusi dentro un posto e poi ammazzati, oppure devono stare liberi. Non in centro città. Poi i tuoi amici cacciatori si peccano le mazzette con i ma no, ma questo lo dici tu, lo dici per importare i cinghiai dall'est Europa. La fermi tutti, ma avete rotto i coglioni. Ciao. I coglioni voi. Mamma mia, ragazzi. Cioè, questi sarebbero gli animalisti che portano i ceri e i fiori dove sono stati ammazzati i cinghiali. Ma vi rendete conto? Interrogazioni parlamentari, gente che si mobilita. E Parenzo che dà ragione a questa gente. Interrogazioni parlamentari può avere e un Parenzo senso. Parenzo che dà ragione, ma non stato bisogna fatto verificare tutto nulla. Norma di legge, perché uccidere sono un animale morti, è cinghiali, un reato. Sei cinghiali del cazzo. Renato dalla provincia di Brescia. Dai, Renato dalla provincia di Brescia. Renato, dimmi. Buonasera a tutti. Dimmi. Volevo dire a proposito dei cinghiali che Parenzo, l'agricoltore ieri sera, piuttosto sì. Maleducato, ignorante, aveva ragione solo su una cosa, che Parenzo effettivamente è stato molto maleducato con Fusaro. A parte questo, volevo dirle una cosa sui cinghiali. Dimmi. Lei mi ha sempre detto che gli animali sono esseri inferiori, d'accordo? Io no, non ho detto che, certo, sono inferiori, non c'è dubbio. Ok, sono io la seguo su questo ragionamento, ok? Sì. Mettiamo che io la pensi come lei, non è proprio così, ma comunque. No, ma il fatto che siano inferiori non significa che non bisogna proteggere in alcuni momenti. Ok, non c'è dubbio. Allora, se sono inferiori, un atto di violenza contro un essere inferiore lo ritengo un atto criminale. Bisogna capire che qual è la violenza, amico mio. Cioè, ma avete già fatto la sentenza contro quei poliziotti della provincia di Roma che hanno sparato e ucciso dei cinghiali? Avete già fatto la sentenza? Ma chi sei? Le dico perché quello di ieri è un atto di violenza. L'animale, di fronte a un uomo con il fucile, quindi non è che la questione animalistica, di fronte a un uomo con il fucile ha solo due possibilità: o attacca o scappa. E gli animali di ieri non avevano alcuna possibilità di fuggire. E te credo, meno male. Mentre quelli l'hanno fatto apposta ad ammazzarli. Ma l'hanno fatto apposta per ammazzarli. Non erano cacciatori. Non erano cacciatori quelli, appunto, erano poliziotti. Appunto, ma se mi lascia finire, mi parla sopra. Io le sto dicendo che un cacciatore sensato, e fortunatamente ne esistono, perché io le dico che se domani dovessero fare un referendum e dirmi lei preferisce gli allevamenti o i cacciatori, io voterei subito per la caccia. Vabbè, allora non c'è l'alternativa. Ma le volevo dire questo, che un cacciatore con la testa sulle spalle ieri non avrebbe ucciso quei cinghiali. Ma cosa c'entra? Ma è un mestiere diverso. Ma è un mestiere diverso quello là. È un mestiere diverso. Meno cinghiali, ma criminale sarai tu. I crimini sono un'altra cosa. Poteva evitare, fermi visto tutti. Che qualcuno voleva adottarli. Ma voi siete pazzi, dove utilizzate dei termini che sono propri di altre cose. No, ma che c'entra? Ma se che adottarli, cinghiali, ma andassero ad adottare in un'altra parte. Ma se qualcuno se li voleva portare via, perché ucciderli? Questa è la domanda. Perché lo molto hanno semplice. Deciso le autorità. Sbagliato, chiaro, le autorità. E l'autorità ha sbagliato e fermi verrà tutti. Indagata per fermi questo, tutti. Verrà denunziata. La Zanzara. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. I libri ora col nuovo saggio di Diego Fusaro, l'intervista di Adriano Montibuzzetti. Col suo nuovo saggio pamphlet Difendere chi siamo, Diego Fusaro prende di mira quella che definisce una globalizzazione nemica delle differenze, quella che non crea più individui ma produttori, consumatori sostituibili l'uno con l'altro. Il risultato di questo processo è quello che lei chiama Homo Vacus. Qual è il suo identikit? Homo Vacus è l'abitatore della globalizzazione capitalistica, un individuo spersonalizzato sbagliato, senza senso critico, senza cultura, senza lingua nazionale, e che per di più vive questa erranza coatta, questa disidentificazione come un'opportunità e non come una sciagura. Avere un'identità, quale che sia, etnica, nazionale, sessuale, religiosa, sta diventando un po' un problema oggi. Sì, perché prevale quello che io chiamo il teorema antidentitario, che dice che chi ha un'identità è per lo stesso pericoloso perché minaccia l'identità altrui. Così facendo si chiede a ogni popolo di rinunciare alla propria identità per aprirsi a quelle degli altri, ma in realtà si ottiene l'annullamento di tutte le identità. Tu sì. Scusami, la... cari amici del TG2, non era meglio il mio culo? Su questo mi trovi d'accordo. La recensione è uguale, è uguale. Il contenuto è uguale, quindi va benissimo, meglio su. Il culo a quel punto, non un'altra c'è dubbio. Pennellata della dottoressa, professoressa Mariani: hanno riempito questo paese, l'Italia, di merda. Mariani, ti adoro! Dove sei? Ma come ti adoro? Dove sei, Mariani? Ma come si fa a dire che adoro Mariani, una razzista? Mariani. Come si fa a dire? Non gli basta averlo portato alla deriva finanziaria, non gli basta averlo sgangherato, non gli basta averlo riempito di merda, perché prendono soldi anche su questo. Ma chi? Intasate i tribunali, non pagate. Se io non sono nelle condizioni di produrre, non pago. Mandatelo voi a Carte 40 quel che resta di questo paese, perché così potrete cacciare a pedate nel culo questa gentaglia, perché questa è solo gentaglia. Mamma mia, come va l'attacco, la signora Mariani? Non pagate le tasse, intasate i tribunali. Ma chi è la signora Mariani? Avete riempito il paese di merda. Ma chi è una professoressa? Ogni tanto interviene a Canale 21, giusto? Gottardo, cos'è, come si chiama quel canale? Adesso? Quel canale credo canale che sia Italia. Canale Italia, sì, Canale Italia, che credo venga trasmesso dal Veneto. Bah. Dal Veneto, sì, dal Veneto. A volte mi domando se sia canale o canile, perché ci sono di quelle gente. Ti ricordo che è la stessa trasmissione. Bravo, dove è nato Spatalino? Trasmissione che ha invitato, c'è un tale Gianluca Versace che ci lavora. Beh, e ha invitato Mauro da Mantova. Sì, sì, ricordo benissimo. Come opinionista. Vabbè, quello però ognuno fa il cazzo che vuole. No, però per dare un po'. Però ci sono anche persone eccezionali che ci lavorano lì dentro. Sì. Dopodiché c'era Povia, Povia è andato a cantare lì. Ma qual è il problema? Povia, ragazzi, cantava in mutande. Mattia, in mutande, Povia. Ma ottimo, magari cantava in mutande. Ma magari cantasse qua in mutande. Mattia da Firenze. No, è un ottimo emittente. Ha dato i Natali a Spatalino, però anche questo bisogna ricordare. Mattia da Firenze. Ha dato i Natali. Mattia da Firenze. Pronto? Sono pronto? Dimmi Mattia, dimmi. Pronto, Mattia, dimmi. Giacomo da Brindisi, non ti sento un cazzo, dai. Giacomo da Brindisi, chiusa dai. La trasmissione, basta. Ciao, dimmi. Giuseppe. Dimmi già. Senti, dimmi. Allora, io sono lavoro in un'azienda aeronautica, in pratica da 15 anni. Chiama Barisoni. No, magari chiami Barisoni, non lo so, c'è già, non Barisoni, ci sono le telefonate, sono vero, hai ragione, Giacomo, dimmi. Pronto? Dimmi Giacomo, dimmi. Praticamente io sono responsabile di una parte della produzione. Fino a gennaio dell'anno scorso avevo Pronto? Vabbè, allora che succede? Non si Giacomo, capisce. Dici? Vabbè. Io avevo 100 persone di cui ero responsabile, nel giro di 8 mesi si sono ridotte a 20, senza avere nessun caso di coronavirus, soltanto per paura, soltanto mandando le persone a casa perché uno starnutisce, soltanto perché Pronto? Mi senti o no? Se secondo voi è normale che possa succedere una cosa del... Pronto? Ma mi senti o no, cazzo? Pronto? Non si capisce niente. Però. Pronto? Pronto o no? Ma con chi stai parlando? Che non si capisce un pronto. Caso. Ma non si capisce. Alessandro da Milano, dai. Non Alessandro si sente da Milano. Mica, Alessandro però. Da Milano, dimmi. Ma volevo fare una domanda maieutica a Parenza, se posso un secondo. Maieutica, ma come sì, mai? Meno male. Una domanda proibita, lo so, è una parola proibita, ma come mai? Abbiamo chiuso il mondo, New York, Parigi, il mio bed and breakfast, sto morendo di fame, perché è morto 1 milione di persone, che è una cosa grave, sono morte più persone di influenza quest'anno che negli ultimi 5 anni, quindi è gravissimo, sono d'accordo con te, ma gli incidenti d'auto? Muoiono 1.300.000 persone tutti gli anni. Non hanno vietato il traffico. Non hanno vietato il traffico, però. Hanno preso delle misure, mettiamo l'airbag, mettiamo il casco. Non è che chiudono il mondo. Quando ci sarà il vaccino, non si chiuderà non ci sarà più il problema. Quando ci sarà l'immunità di gregge, non si porrà più il problema. Adesso parli di immunità di gregge, amico mio, che prima sfoggiavi il naturale... perché si è ammalato. No, scusami, Cristo. Ma cazzo, mi pare ovvio. Mi pare ovvio che anche. Infatti ci hanno ripensato. E infatti ci hanno ripensato. Hanno cambiato strategia, ma dire immunità di gregge senza vaccino è una puttanata. Anche Boris Johnson ci ha ripensato, infatti, vaccino, e fa il lockdown. lockdown. Vabbè, non mi fare parlare perché lockdown. Mi metti giù se dico quello che Boris penso. Boris Johnson sta facendo il lockdown. Va bene perché girano i soldi, va bene per girare i soldi, ma non puoi chiudere i cinema, i bed and breakfast, i ristoranti, la gente non si abbraccia più. Bed and breakfast non sono chiusi. Quando ero giovane io, ho 51 anni, ok, siamo arrivati agli anni 60, bella, droghe libera, boh. Ma non sono chiusi adesso, eccetera. Arrivano gli anni 80, AIDS. E muori se fai l'amore. Adesso muori se ti abbracci, capito? I ragazzi. Ma questa è la cazzata, infatti, della informazione terroristica. Allora, e di quelli che allora, e di tutte muori, le star allora. Del cazzo che in questi i giorni. Genitori sono anziani, aspetta, vado da loro con la mascherina, Alessandro. Ma non è che per far vedere i miei genitori e ai nipoti senza mascherina, i miei nipoti giocano con la mascherina tutto il giorno, lo capisci o no? No, e ma... chi è il pericolo che si protegge? Se ne sta a casa. In Israele avevano già ragione. A 65 anni non sei in pensione. Statene a casa. No, ma l'altra cosa. Scusami, l'altra io cosa voglio farlo. Parodiare. Se tu sei ratti, te ne stai a casa, hai capito? Vai a casa, non rompere i coglioni a noi. Noi viviamo, noi dobbiamo vivere. Ma chi ti impedisce di vivere? Scusa, no, i cinema sono aperti, sai, caro. Chi cazzo parli? Chi beh, oddio, vai ma sono andata adesso in ma non c'è un metterti la mascherina. Io non ho più un lavoro per questa cosa. La gente non si sposta più, nessuno visita ma più una città. Un museo. Ma perché non tu andresti a Parigi? Ma io dovevo andare. Scusami, fratello, io la sentivo. Io vorrei andare a Parigi. Ma scusami, io da mesi vorrei andarmene a Parigi a fare un bellissimo weekend con mia moglie a Parigi. Ma e purtroppo non ci posso andare. Weekend, ma non mi fare dire cose che mi metti giù il telefono. Ma purtroppo non ci posso andare. Ne ho pensate 10 volte. Scusami, siamo nella stessa condizione. Ma io non ci posso andare. Ma non sei nella mia condizione. Ma ti pagano, giusto? Ma sono contento che ho perso il 20% del mio fatturato. Io sono contento che voi lavoriate. Ho perso il 20% del mio fatturato. Ho tempo per pensare, dico ogni anno nel mondo muoiono 45 milioni di persone non esagerare, e nascono 120 però. Milioni di persone non esagerare. Pensare, ho detto allora, tempo per pensare, pensa, non esagerare. Pensa, Parenzo, pensa. Non esagerare. Quest'anno la popolazione aumenta di 85 milioni di persone, vuol dire 5 posti al giorno per 365 giorni. Fai i conti, Parenzo. Questi sono i problemi che abbiamo tutti i giorni. Ma io devo nel andare mondo. A mangiare a 4 persone, mettere 4 pranzo bambini. Con la cena insieme in 8 miliardi. Se fai i conti, 8 miliardi per 3, perché mangiamo 3 volte al giorno, se non ti dispiace, ok? Non è un problema di pasti, non è un problema di Brusaferro, non è un problema di Brusaferro, non è un problema di ma sono contento non che è un problema del signor Locatelli. È un problema non si può più vivere ragazzi perché se no si muore ma la vita è una malattia mortale che si contrae nascendo lo sappiamo tutti ciao okay? Ale un abbraccio ciao ti abbraccio ciao, ti voglio ciao, bene ciao. Alfredo da Roma, questa è l'unica trasmissione in cui si dicono queste cose, caro Davide, vita questa qua. Devo dire che il signor Gottardo ha avuto un ruolo in questa. Tu l'hai ammazzato una volta. Cioè, tu una volta l'hai massacrato. Sì, è vero, ma io l'hai massacrato. Penso ancora, che avete commesso un errore madornale a sottovalutare Roma, questa Alfredo cosa. Da Roma, Alfredo un errore madornale. Siete pronti? Persino io sono pronto. Dimmi, Alfredo. Dimmi, Palù dimmi. È gottardiano. Ok, volevo dire questo. Noi dai giornali, ma anche da Radio 24 in generale, sentiamo sempre queste classifiche giornaliere del numero di contagi. Tutta certo. Una riflessione da condividere. Tra l'altro anche scusami un attimo, anche Bruno Vespa l'altro giorno si è reso conto di questa cosa qua e ha chiesto conto, non mi ricordo chi. Cosa vuol dire Vespa? No, si è reso conto di una di roba, si è reso conto del fatto che i contagi giornalieri in realtà sono danno anche un una trend. Somma di sono una somma di altri contagi, di perché persone già contagiate. Ecco. Sono tamponi allora, positivi, sono tamponi positivi che non sono i contagiati. Esatto, dimmi, volevo condividere una riflessione. Il test PCR è un test quantitativo. Si chiamano così, cosa devo dire? Ma su, ci stai distruggendo. Come li volete chiamare? Ma non ti permettere neanche di produciare il test PCR è una parola incomprensibile. Più hanno già cambiato canale, dai, vergogna. Siamo già allo 02, diciamo. Dai, la gente ha già abbandonato tutto con test PCR. Se noi neanche Parenzo tedesco fanno queste cose qua. No, Parenzo naturalmente molto bravo tedesco. Dai, test PCR su. Distrutto tutto. La zanzara è parola tabù. Però voglio dire che questi test, chiamateli come volete, non definiscono uno stato di contagio. Che c'è? Pronto? Non c'è forse. Non mi sento. Non definiscono uno stato di contaggio. Non c'è. Ma basta, ma è noioso. Tutti i giorni abbiamo la classifica perché è una... Marco D'Alecco, ma rotti i coglioni. Marco D'Alecco, dai Marco, dimmi. Ciao. Ma dove cazzo vive quel bigotto di Parenzo? Cioè? Io tutte le sere o le mattine, dipende dai turni che faccio, vado al lavoro e salto sulla mia gru a 20 metri e quasi ogni giorno mi faccio una sega, la cosa più normale del mondo. Scusa Marco, tu mi stai dicendo una cosa fondamentale, stai dicendo che tu ogni giorno sali su una gru perché non so che lavoro fai. Il lavoro che faccio, il gruista. Che cazzo è il gruista? Si chiama gruista, non sai niente, si chiama gruista. C'era una canzone meravigliosa peraltro di Enzo Iannacci che si chiamava proprio Il gruista. Va benissimo, perché bravo. Me la faccio sentire tra un minuto, faccio sentire senza romperci le orecchie con le sue cose. Solo se la canta la Martani. Scusami, la cantasse la Martani. Allora Marco, tu ogni giorno ti fai una sega magari pensando alla Martani sulla gru. La Martani o la Malena, qualche film di Rocco, quelle cose lì, ma non è che per forza è una cosa automatica, vai su, c'è un po' di noia, un po' ma tra una, ma scusami, fatemi sentire, cazzo, dai Marco. Ma dove dunque iacula costui poi? Dove questo è interessante. Beh, non preoccuparti, sono anche i fazzoletti, c'è la carta, non è che sono un animale che butto, sì, vabbè. Certo, sono dietro qualcosa. Ma no, a che altezza? Cos'è sta roba? È il gruista. Senti che bella che è. Iannacci, grazie. Fammi sentire. Quella. Quella. Lento. Senti che bella. Era un manovratore. E quindi manovrava. Senti che bella. Quel gran bottone in ferro della gru. Lassù nella garitta, lui sempre se ne stava. Bellissima. Spostando le putrelle. E in su e in giù, grande. Su e giù come la mano di questo. Perciò era un gruista. Molto bene, Marco D'Alecco, sapevi che Iannacci aveva, io non lo sapevo, aveva fatto una canzone su. Sì, avevo sentito qualcosa sul tuo mestiere, però tu ogni giorno praticamente. Milano da 30 anni e non sai un cazzo di quella città, di uno dei più. Io vado via a questo punto, uno dei più grandi poeti. Ma perché Parenzo si deve scandalizzare ogni volta che si parla di stesso? O è un eunuco o è un froce, cioè. Ma scusi, ogni volta che si parla di stesso lui si scandalizza. Il suo mestiere mi offende, perché scusi? Scusami, è eunuco, no? Praticamente ogni giorno te la fai la sega. Lei sta distruggendo la professione del gruista, cantata magnificamente da quel poeta. Ma che era distruggendo. Sì, il gruista c'è anche un doppio senso, perché uno manovra la gru e manovra anche qualcos'altro. Iannacci non intendeva quello. Ma scusami, Marco ha detto una cosa di una grande umanità. È vero. Ora su una gru, che deve essere una cosa è sposato, non particolarmente. Lei ha figli, ha fidanzate. Sì, normale. Ho la mia vita privata. Adesso non voglio specificare perché non voglio farmi riconoscere. Ogni tanto si fa una sega. Sulla gru, ma qual è il problema? E dunque sul suo posto di lavoro si fa una sega, ragazzi, è normale. I bagni qui del Sole 24 Ore, della Pricewaterhouse, li ho battezzati più volte, ma è normale che sia così. È normalissimo, anche tu non lo vuoi dire, ma io i bagni lì della sede di Roma del Sole 24 Ore. Guarda, ti posso assicurare. Dimmi Marco. Allora, i radical chic saranno lì a leggersi i libretti, tutti filosofici, così. Noi ci facciamo una sega. Facciamo quelle cose lì. Cioè, fermi tutti, grande, ciao. Va bene. Chiedo scusa, un momento, pubblicità. La Zanzara. Sì, però adesso piantiamola di rompere i coglioni con questa storia della Svezia. La Svezia non ha scelto l'immunità di gregge o chissà che cosa. In Svezia rispettano il vivere civile. Lo Stato gli dice di non fare delle cose o di farle e loro o non le fanno o le fanno. Semplicissimo. Gli dicono: sei positivo, stai in casa 2 settimane. Questi stanno in casa 2 settimane e non vedono nessuno. Punto. È per quello che la Svezia ha scelto quello. È per quello che va bene, perché la gente è responsabile. Semplicemente per quello. Basta rompere i coglioni con la Svezia. Lasciamola fuori dal discorso. La Zanzara. capisco proprio perché c'hanno tutti paura di sto coronavirus. Cioè, nel senso, c'avete una vita di merda, non c'avete una lira, siete brutti, siete scemi. Che cazzo campate a fare? Ma ringraziate a Dio che c'è sta sto virus, andatelo a prendere. Volevo vedere qualche maglietta? Facci vedere. Che ne do? Qua c'ho. C'ho una Gucci, 350. 350 euro una maglietta. Poi c'ho Givenchy. Un'altra Gucci. Tutto di marca, insomma. Questo qua 200, 350, 350, 350. Sì, solo di magliette c'è 2000 euro di roba. No, sì. di più. Ok, sì, si sì, sono anabolizzanti. Sì, qui c'è un po' di testosterone, altro testosterone. E qua abbiamo il bordelone, trembolone, sanozzololo. Quindi tutti i giorni bene o male prendi qualcosa? Beh, per forza, sennò come fai? Questo era il mitico Fratelli, presentato dalla tua trasmissione preferita, Parenzo, Piazza Pulita, come un cattivo esempio del web. Sicuro. Cattivo esempio del web. Mi fanno impazzire a me queste cose, il cattivo esempio del web. Vero. Secondo me Conte avrebbe dovuto chiamare lui invece di chiamare Fedez. C'è un mezzo criminale quello lì. Segreteria di Giuseppe Conte, buonasera. Yeah? Fratelli. Yeah. Segreteria di Giuseppe Conte. Ah, ciao, ciao Giuseppe. Aspetta, mettite bene con sto telefono, non si sente più un cazzo ogni volta. Ma a me meglio quando mi chiamate, non si sente mai. Stai al cesso, stai, che stai a fare? Eh sì, stavo a fare la pisciata, chi non piscia in compagnia. Ma che modo non di è fare? Figlio di Maria. Io dico una cosa, fratelli, secondo me Giuseppe Conte invece di chiamare Fedez per fare il video sulla mascherina, dove chiama te? Cioè perché non ha chiamato te invece non di chiamare? Non sa neanche chi è Conte lui. Ma io la mascherina ma la metto al cesso quando caga la ragazza mia, se no sai che puzza. Ma che roba è? Ma cosa dice? Perché tu non la metti mai in realtà, No, io mangio le saponette, figurati. Beh, che bagna le saponette. Ma lei è un irresponsabile e schifoso. Ma lei è un irresponsabile. Ha l'obbligo di portare la mascherina se esce di casa e va nei locali. L'obbligo. Ma a me l'obbligi non mi sono mai piaciuti. Obblighi. Se mai no obblighi. Obblighi. Obblighi, obblighi. Che è obblighi? Ma scusate. Io ma... parlo come magno. Ma fratelli, ti hanno fatto un servizio a Piazza Pulita che ti hanno messo in mezzo il cattivo esempio del web. Certo. Il cattivo. Ma poi vedremo, tanto c'è stata la rivalsa. Vuol dire la rivalsa? Che vuol dire? Nel senso che è facile attaccare uno quando non c'è sta. Attaccami quando c'è sto. Ma che vuol dire? Mica è una rissa quella, scusi. Bravo. La trasmissione. Non è una rissa quella. Bravo. Ho capito, ma qua stiamo a parlare con re delle dirette, il re dell'intrattenimento e degli sprechi. Dirette? Ma attacchi così, che vuoi fare? Ma chi è il re delle dirette, scusi? Chi è un traditore? Ma che vuoi? Ma chi era quel ciccione là, quel politico che ha boccia tutto brutto? Ma che vuoi? Che... ha brutto un culo. Ma chi è? Ma cosa ma chi dice? Che mi diceva, mandate la finanza a casa. Ma vattene a fanculo. Ma certo, per andare di carabinieri a casa a te, ovvio, ah, certo. Ma questi devono rimanere senza lavoro. Così mangi un altro po' a te, no? Se questo qua guadagna i soldi con l'internet, facendo, vendendo i prodotti, eccetera, ma saranno cazzi suoi o no? Basta che fatturi. Basta che fatturi, però. Basta che ci sia traccia di quel che guadagna. Ma io non lo so, immagino che fatturi. Ma traccia di che? Ma io sono un influencer, c'è sta una legge che uno deve pagare le tasse su essere influencer, fammi capire. Ma se guadagni, certo, se vendi dei prodotti, certo, che cazzo vuol dire, scusa? Ma io non vendo niente, io faccio la pubblicità su Instagram. Oh. E quanto te pagano per fare ste cazzate a te? Ma io non lo dico più perché già mi hanno bloccato il conto. 1000 euro, 1000 euro a botta. Come ti ha bloccato il conto? Guadagno. Nell'ultimo mese avrei fatto 5-6 mila euro, no? Cioè immagino. Ma quando mai? Ma nei primi giorni del mese 5-6 mila euro. Appunto, dico, ma tu su questi soldi impaghi le tasse, fratelli? Ma io non pago niente, io non devo pagare niente, perché io sono l'eletto. Tu non paghi un cazzo perché sei l'eletto. Signore. Mio padre era figlio di una mignotta, io sono venuto ancora più figlio di mignotta. Però se tu non paghi un cazzo e a un certo punto viene la finanza a casa tua, che fai? Che dica, fratelli, sono nulla tenente, mi sa che ha preso il muro. Sì, potrebbe essere, lo sai che potrebbe essere così? Potrebbe risultare nulla tenente. Addirittura. Potrebbe risultare nulla tenente, fratelli. Ma come è possibile? devo attaccare, che c'è una chiamata da Berlino che è la carta di credito che mi hanno bloccata. Aspetta un attimo, amico mio, ma quelli che dicono che sei un esempio negativo del web, perché lo dicono? Là c'erano in studio diverse persone, esempio negativo per questa storia degli steroidi. Che cazzo te fai te? De tutto e de più. Ma perché? Per fa cosa? Perché te fai questi steroidi? Perché ho preso 20 kg con 3 mesi, non lo so. Ma ho capito, ma fanno male sti anabolizzanti, no? L'uccello non ti funziona più dopo. Non ti si risa più. Ma chi te l'ha detto? Ma secondo me, a mia ragazza sa con me se mi funziona un uccello, ti dico che mi funziona 3 volte di più. Sì, figurati. Però scusami, sti anabolizzanti non è un bel esempio da dare. A me non me ne frega un cazzo, ognuno fa quello che vuole. Però chiaramente. Ma qualcuno... come no? Ma qua tocca. Ma qua solo in Italia è tutto illegale. Non dove vai in comunità europea, tutti anabolizzanti, tutti drogati, è legale. Devi andare in comunità di recupero. In comunità di recupero, non in comunità europea, tu. Ma scusa. Comunità di recupero, ma basci te in comunità. Certo. Oh. Lui ma ha... che CSO tocca fate, dammi retta, che sa parlare pure col bocote, raga, che ha voce pisciata. Per te bisogna che sia legalizzato tutto: droga, eroina, cocaina, anabolizzanti. Ma chi sta di questo? Però sta di anabolizzanti e sta metta la droga che ha anabolizzanti. No, ma in generale c'entra? dico la legalizzazione, vorresti di tutto. Vorresti... Guarda, io sono contro ogni tipo di droga, a partire da marijuana che dicono che è leggera, ma io non faccio distinzione tra leggera, pesante, media. Cioè, tu, per tu, me tu, la droga è droga. Tu, capito? Non ho capito, non ti sei mai fatto una botta tu? Pure. Come no? Come no? Come no. Appunto. E chi sa di te no? E allora che dici? Ma lei è proprio un esempio pessimo. Che so di che secondo me su di me ha fatto l'effetto che magari determinate cose non le puoi fare. Se vuoi andare a ammazzare, vatti a ammazzare. Gli anabolizzanti pure, uguale, la stessa cosa. Ma quello è un altro discorso. No, è un altro discorso completamente. Cioè, ma io ho capito, ma se anabolizzanti però fanno, male, amico mio, fanno male, fanno male. Ma perché? Perché devi un attacco di rabbia. Ma chi è che c'ha la rabbia? Il cane c'ha la rabbia. Ho capito, il cuore, la rabbia, effetti a lungo termine. Ma quale cuore? Ma qua solo i muscoli crescono, che c'entra il cuore? Solo i muscoli, tutto sotto. C'è il colesterolo, altre cose. Ci stanno i farmaci legali, vendibili in farmacia, che ti aiutano a contrastare determinati effetti collaterali. Comunque l'altro giorno ho visto il cattivo esempio del web con tutti i moralisti là a discutere, ma quello fa i cazzi suoi. Se poi, è un cattivo esempio, è una persona che trasmette valori negativi, questo si potrà dire in qualche modo o no, o no, manco questo che sei un esempio negativo ma sicuro per me... ma se te vuoi rimanere a fare se dice che con una pippa ti scopi chi te pare, se te sta bene così a me donne mi cercano lascia fiamme da un po', dai. Cioè io... tu dici tutto questo lo fai alla fine anche un po' per scopà, diciamo la verità. No, ma io so di comunque sia vogliamo mettere sex appeal, cioè serve nel senso, no? Perché non prova a conquistare una donna anche magari citandole un libro, leggendo un grande romanzo? Gli dai, che gli dai? Vuoi mettere un cotechino davanti a un stuzzicadente, dai. Io... No, ho capito, ma non è che i anabolizzanti fanno bene al cazzo, che ne sai? Cioè, ma che chi ti ha detto questo? Ha provato sulla pelle tua? Perché fanno bene al cazzo gli anabolizzanti, non ho capito. Vedi un po'. Tu riusciresti a vivere con 1000 euro al mese? 900 euro al mese, riusciresti a campare? Sì, che ma che messa a Dio? No, non riusciresti a campare con 700-800 euro. 700 1000 euro al mese. Ma qua mi sta a far cascare i capelli solo a pensarci. ci sono stato passato, ma non mi c'è valito tornare indietro che mi si blocca il cuore davvero, no, anabolizzante. Cioè tu dici che quelli che campano con 1000-1200 euro al mese non li capisci, per te è impossibile campare con 1000-1200. Io a me mi mancava da mangiare a casa. Dipende quanto spendi di droga poi alla fine, no? Dipende quanto spendi per altre cose, cioè, Sì, se dice che gallina che canta ha fatto l'uovo a Roma, ma non è che il compare qua sotto è lui che spende i soldi. No, guarda, assolutamente. Io ho speso di droga quanto tu hai speso di libri, cioè zero. Io volevo chiedere a questo signore se ad esempio ha letto l'ultimo romanzo di Scurati. Ma non credo proprio che conosca l'ultimo romanzo di Scurati. Ha detto questo? Cioè conosce questo? L'ultimo libro di Scurati? No, ma che cazzo c'è? Cioè l'ultimo libro di Scurati su Mussolini. Un best seller assoluto. Scurati. Nella vita bisogna essere sculati. Ma come si permette? Perché che vuol dire? Serve. Ma che dice? Qual è l'ultimo libro che lei ha letto? Quindi Somaro d'un Somaro. Sculati. Qual sì, è l'ultimo libro che lei ha letto? Somaro d'un Somaro. È il libretto di istruzioni. Del Bergen Boy, da ragazzino. Cosa pensa fratelli di Sua Eccellenza? Ma non sa neanche chi è lui, Sua Eccellenza. Ma sì, chi è Sua Eccellenza? Mussolini. Ma siamo in Gran Bretagna che ci stanno ancora la regina. No, Mussolini è Sua Eccellenza. Mussolini? Sì, e chi cazzo è Mussolini? Ma Mussolini è uno che ha vissuto in un tempo effettivamente andato, ormai è vissuto negli anni. Ma, guarda, chiama quell'altro, chiama Occhio de Lince per parlare di Mussolini. Che Occhio de Lince? Brasiliano. E perché per l'occhio che ha? Signor Brasiliano. Occhio di lince, lo chiama, che volgare. Non è carino, non è carino chiamare occhio di lince uno che poi se ti tira una sberla ti arrestano per vagabondaggio perché non sai più dove sei. Woody, quello di Harry Potter. Ma ti ha inventato lui, dai. Ma che sì. Mi ha inventato? Ma quello che non è capace manca accendere e spegnere la luce, che ti ha inventato. Ma mica piava pensioncina dallo Stato. Ha scoperto poi l'acqua calda, ha scoperto. Ma quello ti smonta, fratelli. Stai molto attento a rompere le palle a Brasile, dai. Ma che smonta? Ma quello non è buono, manca attacca anch'io dal muro, smonta. Che vuole smontare? Ma perché avete litigio da banditi alla fine? Comunque, vabbè. Comunque io non capisco perché tu ce l'hai con uno che t'ha creato, t'ha inventato. Chi è più onesto tra voi ma due? Ma ha creato? Ma lui se deve creare qualcosa facesse un fio. Ma se Conte ti chiama, come ha fatto con Fedez, per dire mettete la mascherina, fai una cosa con i giovani per mettere la mascherina, tu che gli fai? Una pernacchia, che gli fai? Ma chi sono un culo, Conte? Gli faccio fare lì, ecco, ma ne manca a casa tua. Ciao, fratello. La Zanzara. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Tu Cruciani, con questa legalizzazione del tradimento, con tutti questi scambisti, questi che amano vedere la loro moglie, la loro donna che tromba con un altro, cioè voi levate al tradimento la cosa più bella, che è quel brivido, quella paura di essere scoperti, quell'eccitazione quando sai che stai facendo qualcosa di proibito, quel magari gioco di sguardi che c'è quando sai che solo tu e l'altra persona sanno, cioè levi questa cosa qui al tradimento e il tradimento diventa la cosa più monotona e meno trasgressiva del mondo. Pensaci. Sicuramente un argomento questo qua, caro David, cioè il tradimento legalizzato come lo intendo io ha anche i suoi lati negativi, non c'è dubbio, cioè manca il brivido, no? Cioè, può mancare il brivido del tradimento, essere scoperti eccetera. Comunque, ragazzi, commettere una piccola infrazione all'interno, diciamo, di quelle regole che uno si dà nella relazione, naturalmente, di quei comandamenti, chiamiamoli così, anche se non sono comandamenti religiosi. So che tu non sei della partita perché ti mi hai confessato un giorno di aver fatto troppo nel passato e adesso hai già dato, sì, e soprattutto adesso... l'idea stessa di mandare dei messaggi, di scambiarti dei messaggi con qualcuno, mi viene mal di testa solo a pensare all'idea di dover architettare. Sì, però pensa qualche volta l'incontro improvviso in un corridoio con la mano che scivola, con i bambini che ho mille robe da fare tutto il giorno. Quale corridoio? Di quale corridoio parli? Io la sveglia la mattina, ce l'ho alle 6:30 perché si sveglia l'ultima arrivata che va a letto all'1. Alle 6:30 mi sveglio, le do il latte, mi preparo, faccio la colazione per il più piccolo, per l'altro. Sei un mammo. Sei un mammo, no, la colazione veramente preparata. Sei un mammo preparato ovviamente dalla schiava, no, dalla schiava nera. La prima colazione, faccio la prima colazione col piccolo, col grande, sì, mentre l'altra ha bevuto il latte, viene rimessa della cura. Quindi io mi attivo alle 6:30. Secondo te, ho tempo io per mandare messaggi? Sai questo, che c'è gente quello, che fa questo e poi si fa fare un pompino nel corridoio quando arriva sul posto di lavoro, sì, giusto per sfogarsi, perché non ne può più di quel tran tran familiare. Ma non c'è nessun tran tran. Cacciari. Bisogna pensare anche a questo. Fino a questo punto di vista ha ragione Conte. Non possiamo permetterci più nuovi lockdown generalizzati. Vediamo dove sono i focolai, isoliamoli, facciamo tutte le cose sensate che vanno fatte, diamo tutti i consigli di questo mondo, ma nuovi lockdown in Italia non possiamo più permetterceli, perché non c'è solo il Covid. Si incazza, in realtà gli danno tutti ragione. Aspetta, ma sì, tu gli dico hai ragione, professore, ma con chi se la prende? Si capisce. E poi c'è la drammatica questione sociale la che metà degli italiani drammatica. Non capiscono semplicemente perché il loro stipendio corre comunque. E invece io capisco, perché io da sindaco ho affrontato decine di questioni di fabbriche che mi chiudono e di disperazione. Ci si ammala anche di disperazione, di angoscia, non solo di Covid. Vogliamo capirlo o non vogliamo capirlo? Vogliamo capirlo o no? Cazzo, scusi Cacciari, lo vogliamo capire. Come va Heidegger, per esempio? Ma non siete lì a non capire niente tutto il giorno a quella radio della Confindustria a parlare di cazzo. incazzate quando fuori la gente muove. Questo è vero, sì, prima questo è... stavo parlando con Feuerbach, gli ho telefonato e gli ho detto a Feuerbach anche Heidegger, anzi Heidegger si dice, la spina nelle carni, la spina nelle carni. Ma come fa a telefonare a Feuerbach? Io sono un filosofo e posso parlare direttamente anche con Spinoza, che voi non avete letto, ma io l'ho letto. Ma cosa c'entra con Covid all'università adesso? Lo portavo anche in consiglio comunale. Un giorno ho portato Kant in consiglio comunale e ho detto: questo è Immanuel, lo conoscete o no? E nessuno l'ha conosciuto. Beh, e ho detto: lui si chiama, e l'ha scritto la critica della ragion pura, la critica della ragion pratica, la critica del giudizio. Ma giustamente ti hanno preso a calcio. A forza di leggere critiche mi sono rotto i coglioni e ora critico anch'io. È chiaro o no? Enrico, mi fate parlare, non mi interrompete, io vado via. Che fa Feltri? Fa come Feltri? Inaudito, dice sempre. Inaudito. Enrico da Roma. Enrico da Roma. Allora, tra Heidegger e Jaspers e quant'altro, intanto complimenti a voi due, ma io vorrei capire una cosa: questo terzo che sta con i piedi da fuori, che cazzo c'entra? Quando torno a casa collego subito con la zanzara, vi vedo in diretta, circo, favolosi, e poi vedo Gottardo con i piedi da... ma che schifo! Oggettivamente è un circo, dai, oggettivamente. Scusa, perché sto mollemente sdraiato in una suite di una cipolla. Con tutto il rispetto per Gottardo, però con i piedi da fuori, ma dai, è meglio, una bella figa c'è piuttosto che quei tronchi di piedi che c'è. Questo non c'è dubbio. Faremo tornare la mia. Grazie la del suggerimento, Fabi, Enrico. Grazie. Allora, ragazzi, la settimana scorsa ci eravamo lasciati con un grande annuncio, caro Parenzo. Che sabato si sarebbe svolta una enorme gangbang, anzi, una gangbang particolare a Milano, vicino alla stazione centrale, in un luogo imprecisato. Una internata l'altra volta che raccontava. Quella che non voleva dire per chi votava. Sì, esatto. E però aveva in programma di prendere diversi piselli nel culo. Questo era il programma. Io di politica non parlo, per chi voto non lo dico, non va bene. Andiamo in collegamento ufficialmente, è diventata anche lei slave, la signora slave Lea. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie. Buonasera signora. Come sta signora Lea? Come sta? Tutto bene, benissimo direi. Allora, super bene, super felice. Vogliamo ricordare che la signora Lea è sostanzialmente una donna sposata, sì, probabilmente anche con dei figli, non andiamo oltre, ovvio. Però ha una vita borghese normale, no? Una vita come tutti, un mestiere immagino, no? Un mestiere che non possiamo qui svelare, ovviamente, perché questo è un mondo ipocrita, perché sennò altrimenti uno dovrebbe tranquillamente dire: io ho come fissazione quella di prendere cazzi nel culo, mi piace moltissimo, godo. Sta poco bene, diciamo, dalla società, e quindi esatto, però la signora slave Lea gode solamente se prende cazzi nel culo. Ma che cosa vuoi fare, perché dovrebbe essere sdoganato? Allora, cara slave Lea, cara amica Lea, anzi togliamo la parola slave, che l'abbiamo già spiegata. Allora, sabato scorso tu hai fatto questa cosa qui, come si è svolta questa cosa qui? Ti è piaciuta? Non ti è piaciuta? Sì, poi vabbè, chi ha partecipato sono stati tutti i ragazzi deliziosi che mi hanno fatto sentire mio agio. Ci siamo divertiti, o mi sono data per loro, e quindi credo che siano andati a casa tutti contenti. Così come lo racconta signora, sembra che è andata a prendere il tè con dei pasticcini a casa di qualcuno. Non è esattamente andata così. Ma possiamo fare un po' di filmografia? No, filmografia è un po' di, come si dice, di riassunto di scena per scena. La VAR adesso ci metteremo troppo tempo. Beh, diciamo innanzitutto, prima ho conosciuto Master Sean, che ti ha un po' aperto anche analmente, o sbaglio, no? Ovvio, sì, il primo a penetrarti analmente è stato lui, è stato Master Sean, certo, anche in quell'occasione, mi ha scaldata, diciamo. Anche in quell'occasione, tutto veniva fatto col preservativo, immagino, no? Sì, assolutamente, quello sì. Poi quante persone si sono avvicendate? Intanto il marito era a casa con quanto i bambini. Quanto bastano per farmi andare a casa contenta? Cioè quanti, possiamo dire 6, 7, 8, quanti? Guarda, non li ho contati, sinceramente pensavo ad altro. No, ok, ho capito, però avrei fatto più o meno, ti sarei fatto un'idea di quante persone ti sono venute del culo, cioè, perché altrimenti, cioè, sono stati dentro il tuo culo, altrimenti beh, qui siamo, alla, siamo al paradosso. Cioè, non avete violato nessun protocollo, perché ognuno a casa sua fa il cazzo che vuole. Può darsi che ci sia stato un piccolo assembramento, ma non avere paura, qui timore no, di dire il numero. Pochi, no, non erano tanti. 5-6 mi sembra di capire, no? A minimo sì, cinque-sei. Non di più. Ma che avete fatto? Esattamente come hai goduto di più? Perché diciamo la verità, la signora Lea gode solamente col squirtando culo. Squirtando di culo. Squirtando, ecco. Ah, come squirtando di culo? Addirittura. Scusami. Addirittura. Cioè, spiegami bene, Lea, non avere paura. Orgasmi. Cioè, tu praticamente te lo mettono nel culo e poi squirti? Squirti, esatto. E squirti. Cioè, tu godi solamente quando ti possiedono analmente. Io sento la differenza tra davanti e dietro, inutile. Vabbè, inutile. Ma finché era chi se ne frega, uno però, che probabilmente ha sbagliato un buco, infatti a un certo punto non mi sentivano urlare e poi ha capito che non era nel buco giusto, diciamo. Hai capito, cioè quando gli mettevano il cazzo nella figa, praticamente non sentivano nulla. Che tragedia. Silenzio. Per me questi sono 3 minuti di tragedia, per me questa parte di trasmissione finale è una tragedia. Tragedia, ma perché è un racconto meraviglioso? Tragedia, una tragedia. Scusa, perché Lea, poi a sta sporcacciona, se, perché bisogna dirle tutte, se le chiedi scusa per chi ha votato, per chi ha votato, ce lo può dire adesso dopo, dopo averci raccontato questo prima quadro. Ditelo voi, poi lo dico io. No, no, so, ha votato a sinistra, a destra, per Salvini, che ne so, ha votato Salvini. Prima lo dite voi, poi lo dico io. Cioè io una volta ho votato perché Salvini. Perché è una cosa sconveniente dire per chi hai votato, invece raccontare che sei stato in un assembramento con 5 uomini mentre il marito sta ma a casa con i figli, va bene. Sono state prese le precauzioni dovute. Quali precauzioni, cioè, quali precauzioni, mi spieghi? A 90 gradi l'assembramento non c'è, dietro c'è la distanza. Cioè tu eri sempre a Pecorina, fissa a Pecorina? Più o meno sì. Più o meno sì, ma hanno fatto pure doppie? Ma cosa ha raccontato suo marito doppia per andare via? Ah, doppie sì, cioè doppie anali anche? Sì, doppia anali, cioè due cazzi nel culo. Volta. Più di una volta due cazzi nel culo, molto bello. Ma hai provato? Aspetta, l'altro giorno, come tu, che cosa hai detto? Molto bene, dico, sono soddisfatta di questa cosa, perché incitavo anche la riuscita della cosa. E come incitavi? Come incitavi? Dicendo di aprirmi bene, insomma, di secondo com'è? Che entrasse bene e che mi sfondasse per bene, insomma. Cioè così dicevi, un pochino, diciamo. Gridavi, sfondatemi, mettetemelo dietro, esatto, com'era la storia? Esatto. Me lo dica, mi faccia capire, signora Lea, se no non capisco. Cioè, mi faccia aprimi, aprimi. Entra con questo cazzo nel culo e aprimelo. Ma signora, per piacere, signora, avanti per favore, Savoia. per favore, signora. Senta, signora. Ma in quei momenti ci sta, insomma, questo modo di parlare. Ci sta, signora. Mamma senta, mia. C'era Giulietta, poi se non sbaglio, si sosteneva. Tutto si riprende la propria normalità, sì, la propria insospettabilità. Scusi, signora, aspetti un attimo, signora Lea, prima che intervenga con tardo con una delle solite cose sue, sì, ma voi avete fatto delle altre cose successivamente, anche del pissing? Sì, assolutamente, sia all'inizio che alla fine. Cioè, sì, hanno pisciato tutti addosso questi qua, le hanno pisciato addosso? Sì. Tutti quanti sì, insieme, capito? No, tutti quanti no, per spegnere l'incendio. Sì. Qualcuno sì, sia all'inizio che alla fine. Ma sì, lei che ha fatto? Ha preso solamente addosso oppure ha anche ingoiato? Più o meno, sì, anche in gola, qualcosa ovviamente qualcosa, signore, io alzo le mani, guarda, alzo le mani, non so se vedete la telecamera, alzo le mani al cielo. Cioè non so più cosa dire. Non so se si ma vede, perché? Io alzo le mani. Perché dico pietà. Ovvio. Basta, pietà. Ma se cosa a questa signora piace ma così, ma se vi sembra normale passare un sabato italiano così? Ma cosa vi deve sabato non italiano, ditemi che vecchia è normale. Una vecchia canzone, esatto, credo di non mi ricordo sì, sabato italiano, esatto. Non mi ricordo di chi, di chi era, di Caputo, di Sergio Caputo. Signora che ha fatto sta roba? Sì, un sabato. Un sabato. Era un signora sabato Lea, lei è la mia preferita, lo sai, è diventata la mia preferita. Meno la mia, male, grazie. La mia preferita. Grazie della preferenza. La mia no. La cosa più divertente credo che sia anche stato il finale, cioè come sono venuti questi qua, 5, 6 che fossero. Col bouquet. Col bouquet, cioè tutti in viso insieme? No, non tutti insieme, ovviamente ognuno con i suoi tempi, voglio dire. Però lei alla fine era tutta imbrattata, tutta piena col di bucà, si chiama bucà, sì, che sì. Le piace molto Giuseppe, questa cosa, no? Dimmi, sì, dimmi. Molto, persino, certo, persino Donatella, persino Donatella, la mignotta di Varsavia, scrive, sì, sì, ma che schifo. Ma no, persino adesso questa veramente questa qua, la mignotta ebrea di Varsavia, peraltro. Sì, esatto, persino lei sostiene questa ma cosa, che schifo. Ma perché che schifo, ragazzi, io difendo assolutamente Slave Lea, ma la difendo tutta andare proprio. Alla fine c'era un misto, diciamo la verità. Gli umori quali erano alla fine? C'era del sudore, il tuo sudore, immagino l'hai risudata dopo, sì, questa vicenda. Ma più che altro c'era il letto bagnato da parte mia. Cioè lo squirting tuo, il piscio, sì, il piscio di questi signori prima. No, era... lì si è svolto in bagno, no? Si è svolto, no, in bagno, e poi c'era, sì, diciamo, lo sperma, lo sperma di questi signori, diciamo. Sì. Questa era la cosa. Alla fine il voto che dai a questa esperienza qual è? Vomitevole. Ovviamente 10 con la lode. 10 con la lode, ma ti hanno chiamato troia, puttana, ti hanno detto di tutti i colori. Vabbè, turpiloquio, anche... certo, turpiloquio ci sta. Senza turpiloquio non si può fare, diciamo. No, in città, eccita di più il turpiloquio. E si diventa, ovvio, così, signora. Cosa vuole ti abbraccio, dire? Lea, Alessio del Bizza. Ci... a voi. Ciao, a presto, mi raccomando, ciao, alla prossima gang. Avanti tutta, questa è una brava signora, una brava donna. Sì, Alessio, ci sentiamo domani per i tuoi racconti di Ibiza. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.